Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, benvenuti. Domenica 26 marzo, sono le 14:32 primi e una manciata di secondi. Siamo in diretta ovviamente su Radio 24, come sempre Voice Anatomy. Già i primi ospiti sono intorno a me, ma sapete perfettamente che cominciamo sempre salutando le persone che ci hanno regalato qualcosa con la voce e non solo. Oggi nasceva Diana Ross, questo è un momento che lei ha dedicato alle persone che non ci sono più e noi approfittiamo di questa intro per salutare l'indimenticato Mago Zurlì, Cino Tortorella, che anche lui ci ha regalato tanti bei sogni, soprattutto a me che sono un po' più grande, e il grandissimo Thomas Milliam. Questo è Missing You. Since you've been away, I've been down and lonely. Since you've been away, I've been thinking of you. Trying to understand the reason you left me. What were you going through? Ooh, ooh, ooh, I'm missing you. Tell me why the... Sì, quante voci, quanti corpi ci mancano, tantissimo. Ma noi li ricordiamo con un grande sorriso. Oggi è anche il giorno in cui nacque un grennissimo drammaturgo, Tennessee Williams. Ma quante cose che ha scritto e quanti sogni ha regalato e quanti Oscar ha fatto vincere. Lui è l'autore di un bellissimo spettacolo che è diventato anche un film, Zoo di Vetro. E allora, visto che non ci sono attori doppiatori presenti in questo momento, ma tre attori che stanno aspettando il loro turno al mio fianco, poi vi presenterò fra poco, vi leggo io un momento il pezzo finale di Zoo di Vetro, che è una commedia bellissima dove si piange veramente. Questo è il finale dove il fratello di lei, una donna, una ragazza menomata che sogna l'uomo della sua vita, e una madre che piange vicino a lei la possibilità di avere questo sogno realizzato, infranto, e il finale, cioè il fratello che va via sognando un momento migliore per tutta la storia della sua famiglia. Non andai sulla luna, molto più lontano andai, perché il tempo, la linea più lunga tra due punti. Poco tempo dopo mi licenziarono per aver scritto una poesia su una scatola di scarpe. Lasciai St. Louis. Discesi per l'ultima volta i gradini di questa scaletta e seguì da allora le orme di mio padre, cercando di riprendere in moto quel che era perduto in spazio. Viaggiai e viaggiai. Le città sfioravano come foglie morte, foglie dai colori vivaci ma avulse dal ramo. Avrei voluto fermarmi, ma qualcosa mi perseguitava. Mi prendeva all'improvviso, mi coglieva a tradimento, forse un motivo familiare o forse il riflesso di un pezzo di vetro. Una sera magari cammino per strada in una città straniera senza compagni. Passo davanti alla vetrina illuminata di un negozio di profumi, la vetrina è piena di vetri colorati, di sottili bottiglietti multicolori, quasi un arcobaleno in frantumi. Ecco, ad un tratto mia sorella mi tocca sulla spalla. Mi volto, la guardo negli occhi. Laura, Laura, ho fatto di tutto per staccarmi da te. Ma sono più fedele di quanto volessi. Accendo una sigaretta, attraverso la strada, mi butto in un cinema, in un bar, tracando un bicchierino. Parlo al primo che trovo tutto, purché si spengano le tue candele. Perché oggi il mondo è rischiarato dai lampi. Spegni le tue candele, Laura. E addio. Vabbè. Visto la mancanza di un attore doppiatore presente, mi sono autocitato, autocelebrato. Però intorno a me qui ho tre grandissimi campioni, non solo di voce ma anche di corpo. Allora vi presento in ordine orario. Ma sì, cominciamo da, non so se è il più giovane, ma secondo me sì, Primo Reggiani. Ciao a tutti. Ciao a tu. So come io la prima volta che prendo il radio. Ciao a tutti. Francesca Polloni. Eccoci, ciao. In realtà siamo quattro attori, eh? Sì, perché c'è una... c'è anche un collega. Sancio Panza. C'è Sancio, che è il cagnolino invisibile travestito da sorcio di Apolloni. E dall'altra parte c'è Francesco Montanari. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ecco, sono io il più giovane comunque, ci tengo a sottolineare. Sei tu Montanari. Poi c'è Sancio, poi ci sono io, poi c'è, esatto, il primo è il più vecchio. Allora tu, Montanari, sarà che io la prima volta ti ho visto in televisione e in televisione, perché è quella bellissima e indimenticata serie che è Romanzo Criminale, visto che uno degli autori poi di questa trasmissione, saluto, è Mauro Meconi, che tu hai avuto al tuo fianco, alias Fierolocchio nella serie. Esatto, dall'altra parte Alessia Navarro, capoprogetto del programma, ciao Alessandro Fonico, Rachele, caporedattrice di se stessa, e Milano che ci manda in onda. Montanari, quanti anni hai tu? 32, ne devo fare 33. Dai, Libano. 33, sembravi un cinquantenne. Gli anni di Cristo. Voi ditemi se vedendo il libanese sul Romanzo Criminale non sembrava un cinquantenne anche un po' stanco. Poi c'aveva 23 anni quando l'ha fatto. Sì, era ancora più giovane. 23. Questo significa essere bravi allora. Sì, è bravino ragazzo. Ma no, è Photoshop. È Photoshop. È Photoshop. E invece primo tu quanti anni hai invece? Io ce n'ho 33. Beh, più o meno. No, siamo lui è dell'83, io sono dell'84. Dai, come però, ci tieni? Dico manco se m'ammazzi. No, ma figure, Polloni, fai 50 anni fra poco. Ma che cazzo dici? Ma come dici? Ma che cavolo dici? Siamo sdoganati da Cruciani. Ma che dici? Sono giovanissimo. Va bene. Ce n'ho 63. Dai. Però portati alla grande. Portati con grandi sacrifici. Esatto. Ma a parte questo, siete i protagonisti di un film che sta in uscita, esce fra pochissimo, sì. Oh, che è La Verità. Sì, La Verità. La Verità di Prasugna. No, quello noi ne parliamo di quello che c'è un titolo in giro. Ma va? No, dopo ne parliamo di questo. Invece sentiamolo il trailer di Ovunque tu sarai e poi ve lo raccontiamo. Vai. Mi chiamo Francesco, ho 32 anni e sto per partire con i miei amici per la mia ultima trasferta. L'ultima prima di sposarmi. Bra, sto carichissimo. Che ti sei messo? Un paracadute? No, non mi fido dei quei giubbotti plastici aereo. Dai, non chiede, lo sai. Ma quanto siete belli! Madonna, Francesco, tu non lo puoi sapere. Ah, che chiami moglie, sti cazzo dei vecchietti. No. Dammi un bacio in bocca. Diciamo l'aereo. Mi sono inventato anni fa la problem solving. Allora, affare fatto. Sera, dai lì. A presto. Sono 5 giorni che non gioco. Dai, aspetta, c'ho una giocata su Abby Svedese che praticamente è vinta. Ma una finita, dai, no. Aspetta. Tanto so che sto pulmino ce lascia a piedi. Invece a me sto pulmino mi ispira fiducia. Giordana, dammi il corriere. Vabbè, però non lo sgualcire. No, ma no, è dai però! No! È il giornale no, però! Ma giocata da 5.000 euro! Io. Ovunque tu sarai! Ma hai capito che sono, Lucio? Noi non me ne frega il cazzo. Vabbè, era contento, papà sei un mito assoluto. Caduta la linea. Dal 6 aprile al cinema. Ecco, l'ultima voce era la mia perché mi hanno ritagliato uno spazio in questo papà, film. Papà. Esatto, io sono il papà di Francesco Montanari. Sì. Chi mi racconta la storia di Ovunque tu sarai? Beh, chi l'ha coscritta? Chi l'ha scritta? Scritta? A Polloni. Okay, l'abbiamo è scritta. Vivente l'autore per cui. Ancora, Polloni. Va bene, cerco di essere corretto. Si può fare. Allora, l'abbiamo scritta insieme a Roberto Capucci, la storia di quattro amici. Che è regista poi. Che era anche regista. Era Porello, non c'è più. Che è regista, no, è ancora vivo. E che partono e vanno a vedere gli ottavi di finale Real Roma del 2008, una mitica partita, è che una storia Pino di ricorderà sicuramente. Beh, esatto. L'ho fermata nella mia storia. 2-1 non vivo senza quella partita. Esatto. E in realtà il calcio è un pretesto, è una storia d'amicizia, sì. ognuno dei quattro nasconde un segreto, uno dei quattro si deve sposare, che è primo, e insomma l'idea è il calcio, spesso il tifoso è uno spettatore, no? E invece abbiamo pensato insieme a Roberto se almeno per uno, due o anche forse per tutto il gruppo questa trasferta è l'occasione invece per prendere in mano la propria vita, per essere protagonista della propria vita, allora forse quella trasferta diventava memorabile non solo perché la Roma vinse 2-1 come tu ben ricordi, sì. Anche perché fu quella famosa trasferta che cambiò le vite di questi personaggi. No, ma infatti diciamo è la scusa per raccontare veramente un viaggio goliardico, esatto. Affettuoso, risolutore eccetera, altrimenti so un film che io dicevo vado a vedere se sono della Roma. No, il calcio è il macro contesto. Esatto, anche perché sappiamo che poi i film sul calcio, almeno in una nazione come questa che il calcio domina, almeno in Europa, i film sul calcio che hanno funzionato li conti sulla punta Pino di un ci dito. Sei anche tu nel film. Sì, non ci sono perché faccio tuo papà che sono laziale, per cui mi hanno chiesto la cortesia. E quello lì al quale io rispondo alla fine, visto che siamo per radio, non si è visto, è Bruno Giordano, che sì. Tu mi passi al telefono, io non ci credo. Esatto. Io attacco il telefono in faccia. Con cui abbiamo fatto una meravigliosa partita di pallone, dove io ho anche dimostrato le mie capacità calciste. Adesso chiudo le parole. Sì. Pippa di me. Non è vero, che no, è vero. Io mi oppongo nel dire questa cosa. Montanari, veramente col pallone, lui no, non c'entra niente. So cosa sia. Con la recitazione ci sta, ma col pallone. In porta è forte. Dice prima Meconi. Avrebbe dovuto far calciatore invece di fatto. Prima è molto bravo. Prima è molto bravo. Bisogna dire prima è forte. Io fra voi stavo sulle figurine. Normalmente il conduttore non dice mai io fa un passo indietro. L'ho imparato. Io giocavo in Serie C. Ma detto questo, passiamo oltre. Ma come no? Ma che sì. Non te lo ricordi, Vacca? No, quello è stato uno dei miei film dimenticabili. Stupendo. C'è Carlo Vacca per gli amici Vacca Carlo. E sono stato doppiato anche in Veneto. Cioè, non ero io la voce non mia. No. No, infatti fa veramente ridere. Cioè, era lì 36 anni fa ho fatto. Ma quindi tu lì hai deciso di dire: io adesso, siccome hanno doppiato, esatto, devo dimostrare al che mondo che sono forte, che faccio un doppiatore. Doppiatore come Cristo Comanda. Ma lì io doppiavo le gambe di Gigi Andrea perché erano due pippe assolute. Però il film, sai, era goliardico. Quindi era un giocatore. Io ero un giocatore. Infatti, chiesi quando ho fatto Pronto chi gioca, ho urlato per televisione: sono un calciatore prestato alla carriera artistica. Chiamatemi Pan Nazionale Calciatore. Un po' come Julio. Sì, lui Iglesias. Peccato, lui giocava pure al Madrid in forte, vabbè. E io giocavo col Banco Roma, pensa, col Banco Roma. Io ero vestito giallo-rosso, praticamente la mia vita più importante calcistica. Esatto, è stato quello. Per cui, e poi mi chiamò Massimo Troisi e mi propose lui di entrare nella Nazionale Calcio Attori. Cioè, fu, per favore, devi entrare nella Nazionale Calcio No, questo fa pure il imitatore. Ma infatti tra noi c'è Ricky. Da noi c'è Ricky. Aspetta, infatti dice, ma lo stai fa bene, non è male. Primo, non ti conoscevo sotto questo aspetto. No, cioè, non sei Ricky. Io volevo venire qua per rivedere Pino. Te lo giuro che eri proprio bello all'epoca. Basta però. E invece, visto maestro, che Ricky Memphis è l'altro dei quattro moschettieri, il bomber, protagonisti c'è, del c'è film. È fra noi. E so Righi? Che c'è, ma non c'è. Ma sì, c'è. Fai una domanda e lui ti risponde. Prova a fargli Righi, una domanda. Com'è stato partecipare a questo film, soprattutto questa avventura con i tuoi tre colleghi, con Primo, Francesco e Francesco? Manco me ne sono accorto. Stavo sul divano di casa con Sky. Ho fatto praticamente da cucina. Perché ti vieni di più? Questo in modo, questo è Ricky. Ma sì, sempre. Voglio, sì, lui è così. Che sempre, sta a fare film, sta a casa. Guarda che con noi ha partecipato pure Spalletti. C'era una scena. Ah, fa una domanda a Spalletti. E sparamo tutte così. Mister, è un momento delicato. So che lo spogliatoio della Roma in questo momento è stanco e si sta sfibrando anche un po', visto che il capitano sta rilasciando delle interviste importanti su di lei. Mister, come vede il proseguimento della stagione? Pensate di risollevare la china oppure? Cioè, non so farla venire, a te. Aspetta, questo era Primo che risponde a Pino. Ma io ho fatto un'analisi reale, non è che ho detto. Okay, rispondo. Scusami Spalletti. Sì. Come pensa di risolvere? Se Francesco parla in quel modo, sicuramente gioca poco. Pure le rime fa, capito? È stupendo. Fermi, io Primo no. Non lo sapevo, ma io non lo sai che no. C'è che... Oh, ecco, mo faccio meglio. Perché la cuffia mi dava fastidio. Scusami, perché te bagni i capelli senza. Sì, certo. Pino un segno vestito così con questa giacchetta non è per niente cortese. Perché è biancazzurro. Allora vai. Pino, noi si viene a derby. Sì. Si viene. Vabbè. Ti mette un po' paura lui quando no, c'ha questa è vero, cosa. C'ha ste pause, sì, poi pelare. No, lui. Temenamo. Cioè, sembra. Sì, ognuno ha i croci suoi. Sì. Cioè, insomma, per carità di Dio. No. È stata una bella. Quante durate le riprese? Sono state 6 settimane? Quanto siete stati in giro? Che erano 5. Sì, 6 settimane poi alla ma fine. Ma siete stati a Madrid? Stati... Cioè, ma di che? Cioè, abbiamo fatto tutto intorno alla raccolta. No, no, tutto... A Roma Est. No, siamo andati a Madrid. E Leon. E Segovia. E Segovia, bravo. Vabbè, esatto. Ma fatemi fare delle domande adesso. Vai, io, tu sei Mauro Mecconi. Ah, dobbiamo andare in pubblicità. Va bene. Mi allora, distruggere la scaletta. No, assolutamente. Qui è molto elastica e osmotica. Ah, è osmotica. Mi vai in pubblicità, Libano? Vai. Che cosa posso dire? Niente. Piamose Roma, che devi dire? Pubblicità. Piamose Montevideo. Pubblicità. Mamma mia. A tra poco, Boys Anatomy è appena cominciata. I portoni più belli d'Italia. Sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Voice Anatomy. Bentornati signori, abbiamo qui il cast al completo di Ovunque tu sarai, che uscirà al cinema il 7 aprile. 6 aprile. 6, scusami, scusate, non volevo, perché il 7 preparato. È un numero che mi piace tantissimo. Però se andateci anche al 7 noi non ci offendiamo. Esatto, ci sono anche pure l'8, pure il 9, pure il 10. Primo Reggiani, perché mi sembra giusto cominciare per Primo, questo nome poi ti avrà condizionato da quando sei piccolo. Niente quasi, come a me insegno, per carità. Francesco Apolloni e Francesco Montanari. Montanari. Sì, Montanari. Vabbè, però sai, Montanari, sì, cioè, no, Montanaro, paesano, quello esatto. Che sia. Le persone ti ricordano, ovviamente c'è stato uno startup importantissimo, un timbro che tante volte a qualcuno dà fastidio, invece no, è una cosa che ti può caratterizzare ed essere ricordato, non solo per quello, ma può essere veicolante per quanto riguarda la tua carriera, per Romanzo Criminale, ovviamente quel libanese straordinario, ma tu sei uno che si dà un sacco da fare, soprattutto a teatro. Sì. Credi che uno dei problemi del nostro cinema sia la mancanza di bei ruoli da interpretare? O ci sono? Domandona. E questi guarda, sono gli autori. Guarda, io penso... Tu ti sei fatto Romeo e Giulietta a teatro, per esempio, no? Tante cose hai fatto importanti. No, io penso anche di sì, cioè nel senso che in larga scala, credo, poi dal mio punto di vista, l'attore non viene chiamato a fare un'interpretazione effettiva, ma questo non è soltanto il problema del ruolo in sé, ma credo sia proprio il problema del film in sé. Poi ci sono, certo, chiaramente casi, per fortuna, solo che purtroppo sono la minoranza, di film concepiti in maniera competitiva anche a livello internazionale, no? Quindi credo di sì, ed è anche forse questo un momento storico molto difficile, molto particolare per il nostro cinema, perché non si incassa, cioè la verità è questa, tanti film non incassano, secondo me, anche perché c'è un sovrauso di stesse storie analoghe, di stesse facce, sì, anche che poi magari un film di quelli con quelle facce funziona, ma assolutamente io penso che ci sia proprio un come dire, un'inflazione effettiva di idee e di attori anche, quindi questo sì, questo lo credo. Noi lo diciamo sempre da questi microfoni, quando vengono altri attori eccetera, dobbiamo prendere il bello dell'altra parte d'Europa, tipo la Francia, che produce il 60% d'obbligo di film francesi in sala, produce 90%, c'è una legge, e i film stranieri devono dare poi una percentuale degli incassi al cinema francese. Sei preparato dei nostri film? Sì, molto preparato, perché sono molto attenti a livello artistico, per cui è giusto così, magari fai 100 film invece che 10 e magari ne puoi pure sbagliare 80, ma 20 vengono belli, come quando ne fai 20 è come quando uno. C'è stata una legge in cui si è deciso di produrre fiction in Italia, questo ha creato un'industria della fiction italiana, sceneggiatori, registi eccetera, quindi adesso è solo e troppo fiction, bisognerebbe difenderci un po' di più, no, dico il cinema, questo è sul modello della legge francese, no, comunque in Francia fanno 90-100 film l'anno, in Italia fanno fra i 30 e i 40. Esatto. Allora, Apolloni invece. Domande facili, perché no, questo mi piaceva, perché insomma, Mauro e ad Alessia, cioè, questo io pensavo che fosse riuscito il tuo film. Tu sei un autore, sei un attore, sei un regista, ballerino, teatrale. C'è l'unghia incarnita, sembra, quando balli. Non è vero, ballo benissimo. C'è questa commedia, io voglio dirlo, perché insomma, ma tu, da un film italiano di gran successo come è stata La verità, Vi prego sull'amore, che ha fatto debuttare degli attori meravigliosi, Favino, Mauro Vegoni, Carlotta Anatoli, è stato uno startup importante. Ora, leggere dietro gli autobus, La verità, Vi spiego sull'amore, è un po' come se io facessi Perfetti conosciuti. Adesso ci sto pensando. Infatti lo fa. Ma quindi c'è polemica, un po' di originalità, no? C'è polemica, quindi c'è astio. C'è acredine. Ma dovresti essere felice, perché ti ha citato. Ma no, ma io sono tranquillo. No, non è eccitazione, perché sai, se fosse sentito, è come se io faccio un po' di fantasia, faccio dico, però. Pochi due, cioè, che cioè, non lo so. Gioca sul Ma l'hai querelati? Ma che no, non puoi far niente. Non puoi far nulla. In Italia. Sì, esatto, in Italia e in America. Ma se cammina consonante non puoi dire più niente. La verità vi prega sull'amore. Vi prega, vabbè, fa ridere. Invece no, Ovunque tu sarai, che poi è un pezzo di un inno di Roma, no? Calma, calma, calma, calma. Non è un Marco Conidi. No. Nessun Conidi, no. Allora, Madonna, è uno storico sulla Roma, gli tocchi a Roma. Meno male che oggi è campione del film. Non è un versetto, non è un versetto di una canzone, non è versetto satanico, che dici? Non è l'inno della Roma, non è nessun inno, è un coro della curva sud, esatto, che ovunque tu sarai io non ti lascerò, però mai. Non è così, non era questo il senso, sì, del film. Non è questo, ah, no, però ho sbagliato. Perché Marco Conidi ha fatto una canzone storica, ora non è venuto anche a mettere la Roma, dove ovunque tu sarai fa parte, cioè, quindi fa noi abbiamo fatto il film con la canzone di Conid. Ha dovuto riscrivere un'altra canzone che si chiama Ovunque tu sarai, perché non poteva usare quella cosa della canzone, capito? Per problemi di diritti. Ah, certo, ma Marco, questa cosa sì, ok, ma il titolo del film è un inno della curva, non è un inno, l'inno no, non inno, è un coro. È come non mollare mai, per quanto ci riguarda. Insomma, oggi non c'è. Vabbè, ho capito, prima del derby, stiamo sereni. Prima del 5, quando è il 5? Non lo so, non seguo il calcio. La remontata, il 5, quando è? Non c'è nessuna remontata, non oggi seguo. Abbiamo il collegamento con i nostri amici dello sport, ci sono i nostri amici Capuano, eccetera, Alfardo, che vengono dopo di noi. Comunque io, cioè, mi collego, li chiamo Maina Gioia perché ogni volta mi danno delle notizie non belle da sentire. A Montanari fai domande intelligenti, a me perché sono stupido. No, no, no, ti faccio domande semplici. No, non è semplice, però io invece prima chiedimi Shakespeare, chiedimi qualcosa di i confini la situazione politica domani, cioè, sì, la Polinesia, come è stata la riunione ieri con Trump, esatto, e la Merkel, e poi è funzionale poi per il film, certo. Poi la trasmissione poi è perfetta. Primo, io invece voglio che tu ricordi, visto che questa è una trasmissione larga, nel senso che poi ci sono persone attente che sono sia giovani, ma anche persone non più giovani come me che hanno un trascorso importante come Apolloni. Però io vorrei che tu mi parlassi un secondo di papà, un secondo di Aldo Reggiani. Ma tu sei andato però proprio a colpire... Nel segno, ok. No, ma che no, figurati. Un saluto soltanto perché è un grandissimo attore, è stato un uomo straordinario e a noi ci ha fatto compagnia nelle fiction di allora. Come sì, la Freccia erano Nera, sceneggiati meravigliosi. Dove c'era gente con l'Empals, tutti avevano l'Empals, capito? Papà era un capostipite di questo. No, papà è un grande, io ne parlo sempre poco perché è ancora una ferita aperta, quindi va bene, mi manca molto. Era soltanto per ricordare un grandissimo professionista. Dai, che mo piango, basta. No. Quello... Mi vuoi chiedere qualcosa pure a me su papà? No, Apolloni, non io so manco chi è. Tu non sei di incazzare, dico la verità. Tu sei un figlio d'altri. Sei un figlio d'altri, non sei figlio di nessuno. Vediamo se c'è una domanda intelligente per Apolloni. Ah, perché l'ha fatta i Meconi le domande? Ecco, vabbè, ma ditecela allora. Questa è la terza domanda che Meconi ha preparato. Caro Apolloni, perché per un autore o un giovane regista è così difficile portare avanti i propri progetti? Perché... Grazie Apolloni, è stato fantastico, siamo montanari. No, scusa, sì, vai. No, insomma, sì, non è... Intanto perché la coperta è troppo stretta. Conta. Cioè, noi siamo... Non siamo un paese anglosassone e questo è... E quindi i soldi non sono tantissimi, quindi dove i soldi sono dirottati da una parte non vanno dall'altra. Tu devi avere idee, quelli hanno i soldi e tu devi avere le idee con pochi soldi, no? Esatto, uno. E poi forse perché a volte non viviamo, adesso mi avete fatto diventare serio, non viviamo proprio in una cultura proprio meritocratica, diciamo così. No, sì, non è che non sarebbe la salvezza dell'universo. Non so se vi siete accorti. Sì, un po' sì. E poi perché spesso non si spende poco, si investe poco, ecco, nelle sceneggiature. Cioè una delle cose più importanti è la storia che noi quello che secondo me è importante soprattutto in un film è la storia che tu racconti e gli attori. Se tu hai una buona storia, dei buoni attori, già stai, questo non lo dicevo io, lo diceva Bob. Questo è un fenomeno, De Niro, Bob. Esatto. Questo è un fenomeno. Ma lo sento, ma senti, momento, questo è che cosa brillante. State registrando quello che dico o no? Vai in diretta. State registrando quello che dico o no? Perfetto, sì, vai. Apolloni, ma c'è gente che cazzo mi avete invitato a fare? Ok, io non posso dire una parola. No, puoi dire, state registrando. Siamo sdoganati da Cruciani, qui non è un problema. No, stiamo registrando tutto, ma soprattutto passa tutto agli altri. Questo è un podcast che rimarrà nella storia. È vero che si investe poco nelle sceneggiature, adesso a parte scherzi, cioè, sì. Si investe pochissimo. E quindi magari t'offrono, ti è... C'è gente che pensa alle sceneggiature, sia in scenografie, capito? Sì, esatto. Per cui no, vai da un produttore, è quasi lui che dice te chiedi soldi, capito? Noi dice, io ho scritto sta sceneggiatura, quanto me dai? Esatto. Se la vuoi che la faccia. No, ma è vero, un po', sono d'accordo. Può essere un po' un problema. Stiamo andando in pubblicità. Vai, non te lo chiedo. Montanari, lancia la pubblicità. Da Valentino, c'è Valentino. Valentino che lancia la pubblicità. No, Valentino Rossi, corridoio. Cioè, Valentino Valentino. Pure, ma sì, prima di allora va bene. Dai, andiamo in pubblicità e ci vediamo dopo. Tra pochissimo. Voice Anatomy. Bentornati signori Voice Anatomy, mancano pochissimi secondi alle 15, sempre in compagnia del cast quasi al completo di Ovunque Tu Sarai, che uscirà al cinema il 6 aprile, con tanto di Francesco Montanari, con tanto di Francesco Apolloni, Primo Reggiani e Ricky Memphis. Il telefono, qualcuno ha il telefono sotto il microfono? Apolloni no. Perché è un errore fondamentale. Ecco, beh, rientra anche perché Righi. Non è un paese meritocratico, no? Esatto. Capito il telefonino. Qualcuno dice, carissimo libanese, così truce che mi hai tolto il sonno per settimane. Comunque ti posso dire una cosa. Lui in questo film, Ovunque Tu Sarai, fa un personaggio talmente diverso. Questa è la domanda che farò adesso a lui. Dove dimostra veramente di essere un attore straordinario. Prima però mi sento un momento di Romanzo Criminale. Voglio sentire. Vediamo se Romanzo Criminale. Vai, Montanari. Sta gamba vale. Curioso però. Tuo figlio se n'è nato ma la puzza è rimasta. Dici? Come pare. E lo sai che vuol dire? Che è uno dei due uno stronzo. Ma perché? Ma che t'ho fatto, Talibane? Non è quello che hai fatto a me. È quello che hai fatto dietro di me. Il giretto dei prestiti che hai alzato dalle spalle mie. Ah, quello. Vedi, Libane. E io che andavo in giro a chiedere di Angioletto, degli debiti, del fringuello. E c'avevo la risposta dentro casa mia. Io te lo volevo dire. Non appena Libane, io te lo giuro. Non giurare, Scrocchia. Non giurare. Eccoci, questo era un momento. Invece io lo so, sì. Tu passi dal criminale incallito, ragazzo nerd e timido, impacciato, come sei anche nel film. Sì. Qui. E c'è un momento anche nello spettacolo visto al Piccolo Liseo, era il pigiama. Il pigiama di Daniele Prato. Anche nella vita. Daniele, bravissimo. C'è anche, mi ricordi un pezzetto di quel personaggio, un attimo, per far sentire, oddio, anche la differenza. Com'era? Era un, aspetta, l'inizio è, da piccolo passavo molto tempo ballando in camera mia. Praticamente non facevo altro, ballavo dalla mattina alla sera. Ero molto bravo, sì. Non mi ricordo. Chi è invece Francesco Montanari? Chi è dovremmo chiedere a mia moglie, non lo so. Psicologo, dici. Psicoanalista, insomma. Chiamiamo Castellitto, mettiamo seduto davanti a lui e risolviamo un problema. Tu sei più timido come tutti gli attori? No, sì, sono una persona timida. Persona timida, non particolarmente timido, però insomma sono un po'... sei un mite, cioè, no? Timido. Di natura è mite. Tu sei mite, ed è vero che è così. Chi ti ferma per la strada ti chiede qualcosa di violento o qualcosa di tenero? No, vabbè, perché tu non... lo vedi, ti specchi poi nelle persone, no, che ti riconoscono. Più, però diciamo che quando ci fu il boom della serie, sì, mi ricordavo che tante persone mi chiedevano la foto e ci rimanevano un po' male. Perché si aspettavano gli sparagli? Sì, no? Io non so, forse voleva una capocciata. Ma poi Mauro può confermare, cioè magari volevano un'aggressività diversa, più intensa. Io dicevo, ma scusa, perché? La stessa cosa succede a Marco D'Amore, che è il protagonista, sì, di Suburra, certo, con il quale siamo amici, ovviamente abbiamo camminato per la strada insieme. C'è gente Gomorra, e lo ferma persone dicendo: "Uè, Ciro, che succede?" Cioè, come se volesse una soluzione, sì, da parte sua. Dice, a me però veramente, chi mi fa impazzire, perché mi diverto a farlo ogni tanto, è... Chi è? Salvatore Conte. A me non me l'ho fatto proprio. Reggiani. Lo so, ce l'ho sta. Io faccio spesso colazione la mattina, e ci giochiamo le colazioni nei vari... nei pochi derby che girano, ma a parte questo non conoscevo questa... Sì, c'è anche un grande skill. Comunque, la cosa del libanese, perché tu ovviamente gliel'hai chiesta a lui, perché lui sicuramente avrà subito tutta questa roba qua, ma in realtà pure noi abbiamo subito... Perché, ad esempio, io ho la Mini Cooper vecchia. Ah, certo. Mm. Allora io una sera, ma neanche l'avevo vista la serie, esco dalla Mini e mi arrivano 5-6 persone intorno. Ah, macchina del libanese! Cioè, cazzo! Questa è la mia, ho pagato. Fatto, guardate questi che devono andare in giro a fare. E poi l'ho conosciuto. L'hai conosciuto dopo. Io ho venduto la macchina, almeno dice tua. La macchina c'è ancora. Invece, caro Reggiani, hai all'attivo diversi successi, tu anche a televisione, soprattutto in rissa, al cinema come Lissa P. Ecco. E poi anche tu spazi senza problemi tra televisione e cinema. Il teatro invece? Che rapporto hai col palcoscenico? Ma il rapporto col palcoscenico è un rapporto un po' particolare, perché io, appunto, venendo da una famiglia dove mia madre e mio padre... È vero, ricordiamo anche mamma è una bellissima, esatto, attrice, entrambi, no? Entrambi attori. Quindi ho sempre avuto una sorta di rispetto molto molto forte. Quindi mi sono sempre detto, quando andrò sul palco, che poi ci sono pure, l'ho fatti dei spettacoli, solo che... aspetto, come dire, una maturità. No, è Apolloni che è autore teatrale, regista. No, io l'ho sempre invitato e voluto. Io invitato per degli spettacoli tuoi. No, io lo rivolevo in uno spettacolo, si chiama La verità vi prego sull'amore, perché il film che io ho fatto è tratto da una commedia, perché, esatto, io ho scritto nel 97. Tua, sì, di successo, La verità vi prego sull'amore. Quindi feci una seconda edizione e volevo lui, tra l'altro, per fare il ruolo mio, quindi. No, però io avevo anche accettato, solamente lui che poi non c'è più fatto. No, ma a breve succederà. Cose. Tra l'altro, certo, ricordiamo che Francesco sta in scena con un suo testo che si chiama Risico al Teatro della Cometa, esatto, con una compagnia di bravissimi attori, sì. Grazie per averlo ricordato, perché insomma ieri ci sono giornate difficili. Vabbè, soprattutto chi c'ha il teatro c'è stato, vabbè, sì, ma ieri c'è stato, sì, questo, beh, terrore, sì, psicologico, c'è stato blocco, del black block. Però è uno, sì, spettacolo, no, è bello, però alla fine non... siamo a terrorismo mediatico. È uno spettacolo ormai, molto bello, la storia di un gruppo di giovani che fa politica, scritto nel 92, ma sembra scritto, vabbè, dai, ahimè, frega, oggi. Certo, allora, no, è bello, vabbè, vabbè, dai, comunque, Primo Reggiani, scusa, è una compagnia giovane, la compagnia di Apolloni finisce qui, non lo chiameranno mai più. Arrivano un sacco di messaggi, a parte sul Monnezza eccetera, ma che vi salutano e vi ringraziano, e qualcuno dice mannaggia l'ora legale, mi sono sbagliato con l'orario. Vabbè, ma a parte questo, ci abbiamo un pezzo del, a proposito di Thomas Milian, Monnezza doppiato dal grande Ferruccio Amendola, era una simbiosi pazzesca, incredibile. Thomas Milian, ragazzi, cubano, ma quando mi hanno detto che non era romano, esatto, perché quando ero più piccolo poi non lo sapevo, l'atteggiamento era perfetto, non è romano, è cubano, è cubano, non parla, ma guarda che Cuba-Roma, sì, col treno sono 2 ore e 55. Sentiamocelo un momento, vai. Tu non hai visto niente, non sai niente, non hai sentito niente. E allora? E allora mi sa tanto che tu devi piangere il culo, 26. Eccolo qua. Ste sintesi, sintesi, sì, eccezionali, sì. Mamma mia. E poi Thomas Miller è stato un attore che ha lavorato anche con Maselli o Bertolucci, no, è stato un grandissimo. La luna di Bertolucci, Traffic, ma perché Traffic, di tra l'altro, io, a proposito di Thomas Miller, consiglio vivamente la sua biografia, perché sì, è un libro lui, veramente onesto. Sì, coraggioso, sì, sai, perché quando uno è detto fa una... dal libanese, no, no, quando nudo, uno si è raccontato davvero su, guarda, quando libro, uno fa una biografia tende sempre magari, no, a romanzarsi, a romanzarsi e a eliminare parti scomode della propria, invece lui no, ha proprio No, è bello, l'ho avuto ospite proprio un paio d'anni fa a Domenica Inn, no, mi raccontò di questo e si incazzò come una iena perché intorno c'era qualche tecnico che faceva casino, si è girato con una faccia, ragazzi, faceva paura, sì, senza essere doppiato da Amendola, pazzesco. Allora, vediamo e sentiamoci un momento della verità, vi prego, sull'amore. Che è quella da Apolloni, quella vera, Apolloni, l'originale. Quella originale, onna cammina. Oh, la prima, te meno, adesso vai, ti do una comitata in testa. Sui manifesti per Roma. Guarda, cioè io lo sponsorizzo sempre e lui mi dà sempre conto. No, vabbè, perché vuole non farti vedere così arrabbiata. No, io gli piaccio. Non stiamo facendo pubblicità. Potremmo anche dire una cosa, esatto, che di primo non sa nessuno, però io piaccio molto a primo. Non vabbè, lo direi adesso, mai. Beh, dai, adesso me ne parliamo, dai. Okay, dopo. Va bene, allora sentiamoci un momento della verità, vi prego, sull'amore. Davide, lo sai che loro dividono la casa, no? Oh, non mi dica. No, lui sapeva già tutto, tranquillo, aveva preso un po' di pizza, un po' di birra e si è andato nell'altra camera. E noi, come se niente fosse, abbiamo ricominciato tutti e tre nelle stesse posizioni. Dopo un po' rientra Davide e Claudio gli fa, prendi una Ceres. Davide prende una Ceres e Claudio le fa, e ora? Dove te la mettiamo? Dove te la mettiamo? Dove te la mettiamo? No. E qui Claudio ha dimostrato tutta la sua debolezza, perché lei non ci voleva stare, non cedeva, capito? Allora sono intervenuto io e ho detto, dai, prendi la Ceres, qual è il problema, eh? Non ti piace? Ma c'hai paura? Hai paura, piccola? Allora me la faccio mettere io. No. Forza, dai. Dai Davide, su, ficcami la Ceres, ficcami la forza, dai, me la metto io avanti, su. No, non ci posso credere, no, non è vero. Sì, sì, mi sono messo a doggy style, ho detto, dai, scusate, facciamogli vedere che non è niente. Non sai, Davide con la Ceres in mano non sapeva più chi metterla. Claudio che mi guardava come per dire non ci posso credere, io che gridavo, ficcami la Ceres, così lo vede che non è niente. Cioè ti sei fatto ficcare da Davide una Ceres nel... Eh? Ti sei fatto ficcare da Davide una Ceres piena nel... No... A lei. Ecco, riprendiamo la linea, no, un momento, sì, più importante, cioè, no, adesso, insomma, a parte lo gli sponsor, autori, ma... gli autori hanno scelto la scena quella un po' più, perché, più perché in realtà nella vita di Primo Amore si esplorano i vari aspetti, è un esercizio di stile sull'amore, ma quando sì, esce questo film? Esatto. Adesso è a San Valentino la smettete, invece no, il 6 però aprile potrebbe riuscire, il perché 6 no, aprile staccatelo, ovunque tu sarai, esatto. E invece adesso un po' c'è il Davide di Donatello che è un po', ringraziando il cielo, ha cambiato un po', abbiamo detto con Ovunque tu sarai. Ed è già visto. Stacco, pausa. Un attimo, perché per un attimo ci hanno detto, ma che, veramente, davvero? Ancora non è uscito. Ci hanno dato sulla fiducia. Sì, Davide, ora no, sono un po' meglio. Un po' meglio, anche se si possono fare ancora meglio, perché insomma, che, va bene, ma no, non intervengo su quello, però no. Insomma, un po' più professionale sicuramente. Ma votano ancora, votano ancora i costruttori tutti. Edili ancora? Sì, c'ha ragione prima, sì, effettivamente. Ci sono 2000 persone che votano, c'è anche mio padre. C'è anche qualcuno dentro. Che sa di cinema, che gli piace. No, perché no, ce ne sono, però ci sono anche alcuni che so che valgono più voto. Cioè, magari il voto tuo vale uno, no, quello di un altro vale 15. Sì, sì, cioè, non è come perché? Gli americani. No, che votano solo, dillo te, Pino. Sì, allora, gli americani c'è l'Academy, che sono tutti quelli che sono stati candidati e quelli che hanno vinto l'Oscar, entrano a far parte dell'Academy. Ed è giustissimo. E all'inizio si vota, ognuno vota la sua categoria, cioè l'attore vota per il miglior attore, per le nomination, così l'attrice, così la fotografia, così il cinematografia, eccetera eccetera, mentre alla fine, quando si entra in nomination, tutti e 4000 e rotti membri dell'Academy possono votare tutte le categorie, mentre in Italia noi siamo un po' italiani, un po' chi cazzo gli pare. Esatto, non si sa. Dici, chi cazzo sei del costruttore, vai, vota. Via, vota. Non lo so, quello detto, non ho partecipato. Lo sai che non ci inviteranno nemmeno. No, non saremo mai candidati in più, tutta la vita. Mai più. No, no, ma infatti, io almeno ho fatto dei film dimenticabili, perché a parte questa mia grande momento. Ma tu ti sei visto? No, non ancora. Ah, ecco, ecco perché ci ha invitato. Non mi sono visto. So che per un giorno mi sono veramente divertito. Sono molto carino. Era una ferite. Sì, era sì, carino. Ma hai anche sfondato il bar, se non ti ricordo. Sì, esatto. Ho fatto cascare dopo tutta la scenografia era pronta. Io mi giro, do una gomitata alla mensola e cascano 12.000 bottiglie. Ah, questo non lo sapevo. Sì, ho fatto, pausa. È costato più quella che i soldi. A me non ha dato una lira. Però no, ma noi siamo venuti qui in trasmissione perché il produttore ci ha detto se ci potete dare 200.000 euro. Cipullo. Sì, esatto. Dice, senti, Cipullo. No, Cipullo già. Cipullo e Mario Pezzi, esatto. E anche a questo punto anche la nostra distribuzione M2, che insomma. E scusami Pino, ci siamo dimenticati Ariadna Romero, che è la ragazza, esatto. L'attrice perché ci vuole una bella ragazza. Stessa nazionalità di Tomas Milio. Cubana, sì, cubana, bellissima, e c'è anche lo stesso non potete parlare, voi non siete sposati. Reggiani, tu non sei manco fidanzato più, sei single. Tu con l'Ani sei sposato? No, io sono fidanzato col primo. Io sono sposato. Montanari è sposato. Sì. Sei sposato? Sei bellissima sposato. Ragazza, brillante, grande, una brava presentatrice, De Loco, Andrea, no? Andrea. Poi c'è il nome Andrea, che è affascinante su una donna, eh? Sì, molto. Sì, sì. Su un uomo meno. Beh, perché Francesco... Come Mario, anche Mario su una donna. Sì, esatto. Più o meno. O Antonella su un uomo, è affascinante. No, no, ma Andrea si sa, insomma, poi un nome francese. Bella, poi. È cambiato il tuo rapporto con i social da quando... Sì. Perché lei vive... lei è molto... Fa una vita social vera. Sì, assolutamente. Voi svegliate con Instagram. Perché, sì, io ero molto titubante sulla materia, anche molto pigro, negligente, di qua e di là. Invece lei, no, è iperattiva. Devo dire, mi ha fatto capire che è importante. È importante perché comunque non puoi prescindere dalla società in cui vivi, cioè vivi in una società dove quello è diventato la massima forma di comunicazione. Voi siete social primo. Guarda, io sono diventato social con Instagram grazie a lui. T'ha messo a Francesco, guarda. Infatti la prima foto che ho messo è stata con lui. Lui mi ha detto: no, devi assolutamente fare questa cosa. Devi assolutamente fare Instagram. Questa voce no, devi fare, lo fa no, devi fare Instagram. E Ligabue? Io ti posso dire. Allora, stacco, lui fa Ligabue benissimo. Che siamo bolloni, sì. Ligabue, sono molto contento di stare qui con voi a Radio 24. Ti piace il film che sta per uscire? Comunque tu sarai andato a vedere, anche se non riguarda soltanto la Roma, il Real Madrid, cioè, ma un discorso di amicizia. Le canzoni che tu fai sono anche sull'amicizia, sull'amore. Mi piace molto, solo che avrei voluto una bella storia nero-azzurra. Sì, vabbè, ma le storie somigliano tutte. Quando c'è una squadra e c'è un'amicizia, è quella, la goliardia dello stadio. Ma come canteresti Ovunque tu sarai, Ligabue? Sono tutto uguali. Ovunque tu sarai, esatto. Sarai sempre con me. È una cosa del genere. Ma tu devi andare in onda dove così. Dove andare, Pino? Dimmi te, dove andare. No, ci avrei un paio aiutami. Di idee, ma sono scontate stupide. Tu devi stare dove stai, anzi, vabbè, okay. Devi alimentare questa carriera. No, ma lui è pigrissimo, capito? Lo vedi lo sforzo che dobbiamo fare? Tutti i giorni perché io lo vedo tutti i giorni, lo sto invitando in trasmissione, sì. Da un anno e mezzo. E vedi che non te lo sto detto. Abitiamo a 150 metri, non è assolutamente pigrizia, no. È timidezza. Ma è timidezza, poverino. Poverino, lui è timido. C'hai 40 anni, a primo sveglio. Io mi ricordo che stiamo per promuovere il film. Ma ovunque tu sarai, esce il 6 aprile. Poi io capisco tutto, però insomma. Quante sale si esce, ragazzi? Sappiamo. Guarda, non si sa tante. Tante, però diciamo il numero effettivo lo sapremo il martedì. Non so, c'è anche Carmen Danza, se ci fa un segno se lo possiamo dire, non so, magari stacco. Carmen fa così, ha fatto così con le braccia, non si capisce, ha allargato le braccia, cerchio, che vuoi di Carmen? Vabbè, uscirà almeno un centinaio di sale, sì, sicuramente. Sì, questo sì, per questo, aiutare il cinema, sì, italiano. Sì, questo, no? Sì, sì, sì, no, sicuro. No. Forse anche di più. Una e anche uscita. La verità vi spiego sulla ancora. Oh, guarda, ma sto uscendo con due film. Tu stai uscendo con due film. No, no, la gente di Radio 24 è molto attenta, è assolutamente, okay, assolutamente attenta. Va bene, andiamo in pubblicità, poi ci facciamo l'ultimo blocco insieme e poi è già arrivato nei nostri studi già da un po' il grande Don Bachi. Capito? Balliamo tutti, anni 70, allora. Beh, vabbè. Ma ci fa ballare? Sono quelle persone che nonostante tutto sono ancora qui, ma non sono ancora qui fisicamente, ci sono e attive, non è, poi con lui faremo dei discorsi molto larghi. Più intelligenti, dici? Cioè con noi ci ha fatto gli studi. No, vivono una realtà molto scemi, poi con lui no, no, no, no, no, ci ha inviato per fare discorsi. Non fate parte dei talent, cioè delle scorciatoie. Noi facciamo parte. Voi fate una serie già da un po' e lo state... Don Bachi. E macchine, no? No, di un Dumbaghi. Dai, scusate, grazie. Salutate a tutti, Primo Reggiani, a ciao. Tra pochissimo voi sanatomi. Voi sanatomi. Eccoci di ritorno, voi sanatomi. Sono le 15:17 primi, passiamo gli ultimi 10-12 minuti insieme ai nostri amici protagonisti di Ovunque tu sarai, che sarà nelle sale il 6 aprile. Hai detto adesso solo domande intelligentissime. Solo intelligenti. Parlavamo prima dei Davide, visto che poi avrai i colleghi, perché poi il successo di una persona non può essere l'insuccesso di un'altra. Bisogna pure fare il tifo per quelli bravi. No, ma a parte sempre per quelli bravi. Per cui che previsioni ci sono per i nostri attori, attrici, miglior film? Che dici, Montanari? Io? Guarda, saranno dei Donatello secondo me molto interessanti. Io credo che il mio pronostico miglior attore lo vincerà Stefano Accorsi per Veloce, veloce vento. Come il vento. Gufata incredibile. No, vabbè, non c'è mica candidato, anche se no, l'ha fatta candidato apposta, lo odia Accorsi. Ma perché? No, mica povero Stefano. Ma non è che avevano scelto lui per fare quel film e poi hanno scelto Accorsi. Lo odia, credimi. No, perché tra l'altro, oddio, è un bel gruppo d'amici, ragazzi. Si capisce. Poi penso, anche se pure Michele Riondino potrebbe battersela, ma secondo me c'era Stefano Accorsi. Migliore attrice credo la Bruni Tedeschi, la Pazza Gioia, che gli piaceva molto. Fa parte di queste candidature, sì, questa, la Pazza Gioia, sì, è un film bellissimo, sì, e la Bruni Tedeschi, sì, è stata, sì, straordinaria, sì, devo dire anche la sua, sì, collega, però la, sì, Tedeschi ha fatto il film della vita, secondo me. Esatto, sono d'accordo. Guardatelo, la Pazza Gioia, vedete, perché è un filmone veramente interessantissimo. Per voi siete d'accordo? D'accordo? Ma, sì, sono d'accordo su Accorsi, anche se spero che lo vinca Michele. È una questione proprio d'amicizia, dico. Ah, proprio una festa. No, se ma tu non che Stefano lo conosco. No, ma sono amico di Michele, quindi preferisco che lo vinca un mio amico. Però magari uno sprint per la carriera. Sì, non ce n'ha bisogno, però. Però non fa mai male. Però non fa mai male. No, un premio, un okay, premio. Invece sono d'accordo sulla Tedeschi, assolutamente. E poi comunque in linea di massima, insomma, i premi, io almeno io personalmente non è che do tutta questa importanza, è più una celebrazione. In realtà, sì, il lavoro c'era un regista del collettivo dello Star System in cui stai, no? Se non mi sento parte di sto collettivo. Soprattutto con Star System. Sto scherzando. No, ragazzi, per favore, stiamo organizzando un presidio a Piazza Esedra. Un altro buono che ci firma la polizia. Apolloni, anche tu sei in questa linea? Non faccio previsioni, però c'era un regista a cui ho fatto l'assistente che diceva che, molto bravo, si chiama Gianni Amello, che diceva che a volte in Italia i premi te li danno per risarcimento, no? Te lo meritavi prima e te lo danno dopo. Ma quello capito? Succede un po' dappertutto, esatto. Come a Paul Newman il colore dei soldi, ma sì, perché? Io vi garantisco che Apolloni non ha nessun risentimento verso il mondo. No, ma perché dici no, volevo sottolineare. Oh, Libani te l'ha fatto te, mica è una io. Sorta di... Questa è una maschera simpatica. Ma no, esatto. Ah, lui lo vuole dire. Fammi ah, no, lo stai dicendo. Fa anche un po' patetico. Lo faccio fare. Primo, invece, tu, voi avete un progetto molto interessante sul web, che è Goofy, se non sbaglio. Ah, ma sì, certo. Guarda, certo, che sanno che tutto. Che succede? No, sapete tutto. Come anche la Spar conosco. No, se è venduto, allora, non c'è più. Lo so. Quanto siete scemi, dai. No, sì, ci siamo messi insieme io, Nicola Svaporidis e Matteo Branciamore. Ho preso proprio i due più che ci stavano, più scemi che ci stavano. Siamo noi tre, facciamo qualcosa. No, abbiamo formato questa società che si chiama Drive. Ma come si chiama? Ah, perché Goofy? E mo ci arrivo. Ah, dai. Goofy e Pippo. E stacca il microfono. Due minuti. Sì, stacca. Quindi abbiamo fatto questa piccola società che si chiama Drive per produrre contenuti prevalentemente sul web. E parallelamente a questo abbiamo creato questo Goofy, che è una piattaforma web ed è un grosso contenitore dove adesso lo stiamo riempendo di cortometraggi, di film, di quei cortometraggi anche che magari sono messi in cantina, perché purtroppo i cortometraggi hanno un respiro. Ma come faccio io a essere invitato con lui? Io ti ho invitato senza di lui, non è venuto, capito? Questo è molto interessante, anche perché, come diceva prima Francesco, questa è la tendenza, questa è la strada di questo periodo storico, perché è giusto non cavalcarla, anche perché ormai con il web. Ma infatti era un'idea molto intelligente e non era mia. È mirata. Io la cavalcherei. Il web è sicuramente una piattaforma mirata, non è più orizzontale come era prima la televisione, ma adesso diventa verticale. Va bene, parliamo di cavalcare. Io posso dire una cosa a proposito del web? Sì, perché devo fare un encomio al mio grande amico Mauro Meconi. Eccolo qui. È vero. Perché noi siamo stati i pionieri del web series. Prima dei The Pills, addirittura. Luigi, lo saluto, mio caro amico. I Super G. A casa mia. Scusate, fuori microfono, non è mica in bar. È Radio 24, c'è Confindustria sopra di noi. C'è Confindustria. Ecco. Quindi insomma sì, è assolutamente vero. Pionieri. Però, scusa, ma Mauro, tu hai fatto, ma chi l'ha fatto esordire? Eccolo lì, chi ha cambiato come no? Guarda che tu risulti antipatico. Guarda che poi risulti antipatico. Vabbè, la prima volta, poi no, c'è riuscito. C'è riuscito. Sì. Stoppa sul cazzo. No, resta. Ragazzi, assolutamente dire, sai. Invece voglio prego, mai più con lui. Sai, è amico vostro e ci avete fatto voi il film insieme. Io mi voglio sentire, abbiamo sentito un po' tutti. Voglio sentire Primo Reggiani nella ragazza dei miei sogni. Che cos'era? La ragazza dei miei sogni. La ragazza dei miei sogni è un film molto, molto particolare ed è un progetto della Draga Film, il secondo film di Saverio Di Biagio, ed è una storia particolare. Praticamente parla di questo ragazzo che è schiacciato dalla vita, dalle sue paure, non è uno che praticamente non riesce quasi più a muoversi anche mentalmente, e niente, di notte incomincia a fare un sogno strano, un sogno ricorrente, continua a sognare questa ragazza, la ragazza dei suoi sogni, che e poi incredibilmente la incontra, solo che questa ragazza poi si rivelerà essere un succubus, cioè un demone, un po' i coglioni, un demone del sogno. Sì, affascinante. Quando è uscito questo? Perdona, no, questo deve ancora uscire. No? Infatti, credo però, 26 aprile. Il nostro produttore non sarebbe molto contento. No, va bene, però quello tornerai da solo. Io te sto per menato. Io te lo dico, no. Questo tornerai da solo a presentarlo. Sì. Ragazzi, sentiamo un momento. Tornerò invece, in anteprima, ascoltiamolo, prego. Ok, fammi capire una cosa. Tu l'hai inseguita nel cuore della notte come un maniaco solo perché pensi che è la stessa che hai sognato. Questa ragazza è talmente perfetta che assomiglia alla ragazza dei miei sogni. Tu cerchi altro. Tu cerchi l'incanto. Davvero pensi che sia una coincidenza che io e te ci siamo rincontrati dopo tutti questi anni, proprio quando hai conosciuto Sofia? Li vedi questi simboli? Sono ovunque. L'incanto è ovunque. Devi solo imparare a guardare. Sofia me l'ha detto che ci ha provato con lei. Quelle come Sofia fanno così. Ti prendono nel sonno e ti rubano l'incanto. Tu Sofia non la vedrai né ora né mai. Quando ti succederà qualcosa di strano, fai come ti dico. Qualsiasi cosa strana. Siamo bestie fatte di sogni, amore mio. Ed è arrivato il momento di svegliarsi. Eccolo, chi è lei nel film? Lei è Miriam Giovannelli. È lui. Che è spagnola. Cattivo, cattivo. Lui è Nicolas Vaporidis. E vorrei dire una cosa su questo film, perché qua in radio si può dire. Sì, no, certo. Ah, perché in conferenza stampa mi sa che non lo dirò. No, però che se lo dici 200-250.000 persone no, ci stanno. Sì, però ci sta. Lo so, forse radio un po' mi dà l'idea. Più, dico, lo so, però mi dà l'idea come se stiamo invece tra di noi qua. Ah, okay. Sì, sì. La tragedia è che tu fai un film, l'ho fatto 3 anni fa, e esce adesso. E questa la vera piaga, secondo me, del cinema anche. Meno male che non è un film che ragiona su un periodo storico stabilito, quelle giornate e può riuscire, altrimenti magari è un film che sarebbe stato bello e invisibile. E che avremmo però, vedi, messo in questa piattaforma meravigliosa che abbiamo inventato noi, che è Goofy. Hai visto che bravi non hanno respiro, come si si arriva nella piattaforma? Io sono abbastanza ignorante di web, sono un uomo antico. Vai su Google. Goofy scritto G-O-O-F-I-E gofie. E basta, esatto, okay. Sì, è Pippo. E niente, basta iscriversi con la mail, non è a pagamento, non c'è sta lucro, non c'è pubblicità, non c'è nulla. Dici perché hai fatto? Per l'amore, amore per il si cinema fanno, e si per fanno queste cose per amore. Unicamente per quello. La verità, vi prego sull'amore. Sull'amore. Va bene, questo è quanto. Allora, questo è il momento. Però, siamo arrivati prima del 6 aprile, sì. Che esce ovunque tu sarai. Stasera c'è uno spettacolo, ah, sì, di Francesco Montanari. Dove sei, Francesco? Io sto allo Spazio Diamante. Facciamo, ah sì, una sorta di brancaccio, sì, uno fuori. Spazio scenico aperto da Longobardi. Da Longobardi, sì. Il direttore del brancaccio sarà Umberto. Sì, facciamo Aspettando Godot. Io, Giorgio Colangeli, Riccardo De Filippis, Giancarlo Nicoletti per la regia di Filippo Gili. Abbiamo fatto la prima venerdì, siamo stati in scena venerdì. Fino a quando sarete in scena? Facciamo oggi e poi facciamo il prossimo weekend, venerdì, sabato e domenica. Nasce come esperimento. Dov'è di inaugurazione Spazio Diamante, spazio? Esattamente? Via Prenestina 230. No, 230. Perché lui l'ha sempre utilizzato come accademia d'arte questa, poi invece è un bellissimo spazio. No, lui c'ha l'accademia d'arte allo Spazio Impero, che sta via dell'Acqua Pulita. Oh, mamma mia. Quella è la prima, okay. Gianni, detto lui rileva tutti i cinema che sono falliti e fa spazi scenici, insomma, fa un'operazione molto bella. Meno male. Oggi lo vado in alternativa a Risico al Teatro della Cometa. Esatto. Però tutto questo prima del 7 oggi alle 18 da Risico a martedì. Esatto. Va bene, va bene. Però spingiamo su Spazio Diamante, che sono gli spazi alternativi dove il nome grande va anche per rendere importante uno spazio che fino a ieri era sconosciuto. Ma chi è il nome grande? Chi è il nome grande? Nome grande è Montanari. Francesco Godò. È talmente grande che non arriva mai. Esatto. Ecco. Quest'anno è stato l'anno dei Godò. Hanno aspettato parecchi i Godò. Tre Godò. Piero De Silva, Alessio De Silva. E noi. Però devo dire, a differenza loro, non che sia più bello il nostro, non lo so perché non l'ho visto. La cosa secondo me interessante del nostro spettacolo è che di solito Godò, appartendo a una drammaturgia surrealista del dell'assurdo, è sempre fatto in clownerie, chiave grottesca. Invece noi no, abbiamo fatto una versione iperrealistica su un testo surrealista. E c'è l'albero. Però abbiamo scoperto che funziona tanto in chiave realistica, è assurdo. Il pubblico si diverte tantissimo. Un esercizio di stile su un testo veramente complicato, non è facile per niente, però lo rendi plausibile. Invece tu corri, no. Dai, col cap è più facile. Perché? Invece è una commedia molto interessante. Commedia molto interessante, sicuro. Vai, però è più difficile. No, però è più difficile. Sono quattro, intorno al tavolo, Chicar Armadini. Non è vero. È tutto il tempo. Vi siete aiutati a vicenda. Sì, è vero, dire. Noi ci siamo sponsorizzati. Però insieme, per ovunque tu sarai. Sì. Chiuderei qui, salutando 6 aprile. Grazie, Francesco. Grazie a voi, grazie a Radio. Grazie a Primo Reggiani. Grazie, Francesco Coloni. Salutiamo Ricky Memphis. Noi andiamo avanti tra pochissimo con il grande Bombaghi. A tra poco. Ciao con Voice Anatomy. Ciao. Voice Anatomy. Bentornati signori, 15:32 primi e 37 secondi in questo momento Voice Anatomy. L'alternanza di questa trasmissione che ci offre la possibilità di navigare facendo un esercizio di stile attraverso la storia, attraverso la voce dei grandi protagonisti. Prima abbiamo avuto 3,4 ragazzi, attori straordinari come Francesco Montanari, come l'imitazione di Ricky Memphis che fa parte del quartetto di Ovunque Tu Sarai, Primo Reggiani e Francesca Polloni, adesso una voce importante, non perché loro lo siano stati meno, ma una voce che raccoglie quanti anni di storia. Non dico ancora chi sei, l'ho detto prima, tu sei Aldo Caponi. Precisamente, buongiorno. Buongiorno, in arte Don Bachi. E poi tutti sanno che sei Don Bachi. Così vuole il destino. Così vuole la storia, il destino che ci hai raccontato. Tu nasci a Santa Croce sull'Arno il 21 agosto del 39. Esattamente, ahimè, aggiungo. Sì, ahimè, no, però sei presente con grande attività, visto che sei presente anche con un ultimo album importante. Però con te questa è anche la scusa per percorrere con te la tua storia, che poi in parallelo alla tua storia è anche la storia dell'Italia, perché si racconta tramite le canzoni una realtà, una società. E per telefono abbiamo un tuo collega, che credo tu, al quale tu voglia molto bene, che è Pietruccio dei Dick Dick. E sì. Come no? Beh, vabbè, ciao, abbiamo vissuto. Ciao, che bello sentirvi. Ciao. Oh, caro abbiamo Pietruccio. Vissuto un'avventura in un periodo storico veramente straordinario. Irripetibile, però non è neanche giusto dire ai giovani i nostri tempi erano sbagliati. Bisognava semplicemente dire erano diversi, perché loro vivono una realtà sulla tecnologia. che io in parte condivido e in parte no, però non sta a noi pontificare. Abbiamo vissuto un momento magico dove c'era un foglio bianco che dovevamo riempire e abbiamo avuto la fortuna di poter riempire questo foglio, perché avevamo le possibilità, avevamo la voglia, avevamo la fame, non di cibo, ma la fame di qualche cosa che ci potesse dare qualche cosa nella vita. Ed è stato un momento magico, ripeto, irripetibile. Eh sì, anche perché tu con il gruppo musicale italiano proprio dei Dick Dick nasce nel 65, no Pietruccio? Beh sì, cioè il primo successo nasce nel 65 con Sognando la California. E allora fermati, però... sentiamocelo un attimo, un momento di Sognando la California dei Dick Dick, eccolo qua. Qua una bellissima intelligente cover dei Mamas and Papas, no? California Penso Dreaming. Ho girato il mondo, ma non sono mai stato né in California, no, né nell'isola di White, mai. E non ci andrò mai. E invece a questo punto, proprio per mettere una cosa ex aequo, per fare il giusto, caro certo. Donne, io mi sentirei un pezzo dell'immensità che tu con il grande Gianni Dorelli avete portato al successo. Sì, un paio d'anni dopo, al Festival di Sanremo per l'appunto. Per sì. Cui si camminava di successo in successo. Io me l'ascolto attraverso la voce di Aldo Dombachi. Eccola qui. Io sono sicuro che in questa grande immensità. Io sono sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Due facce della stessa medaglia, due Gianni Dorelli, lui beh, da crooner americano e tu con la grinta e sì. La rabbia. Beh, questo sai era un pezzo, oggi si potrebbe definire un pezzo rock, ecco, perché pezzi con questa grinta, con questa aggressività, insomma non se ne sentivano moltissimi, almeno in quel periodo storico, no? Uno era urlatore se faceva così, non è? In un certo senso sì, anche se ormai erano già stati superati, sì. Ecco, gli urlatori, ma questo direi che un pezzo, appunto, se fosse fatto oggi sarebbe sicuramente un pezzo che potrebbe essere definito rock. Lo facesse Vasco Rossi, per dire, esatto. No? Un nome così. Non è stato ricantato questo da altre persone, eh? Come l'immensità, no? È stato cantato da tutti, chiunque. Da tutti, guarda, dalla Nannini ai Negramaro, esatto. A Renga, questo volevo arrivare. Al Volo, ora ultimamente io anche, sicuro sì, che ultimamente da anche Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio a Sanremo. Voi non l'avete ricantata l'immensità? No, però dico che quando le canzoni hanno una sostanza, come in quel periodo, le canzoni non, rimangono nel tempo. Certo che noi abbiamo fatto sempre una scelta, come Dombachi ha sempre fatto una scelta di canzoni che avessero una sostanza, ma anche nella parte letteraria. Cioè noi non abbiamo mai fatto il ballo del qua, perché erano fuochi di paglia, invece queste qua sono canzoni tipo l'immensità e non so l'isola, Sognando la California, l'isola di White, anche se erano delle cover, ma noi le cover siamo stati costretti a farle perché nel 65, nel 64 il retroterra italiano musicale non era quello, il retroterra musicale dei Beatles che erano in contatto con gli Stati Uniti e sentivano il blues, il rock and roll. Noi avevamo una radio sola, che è pirata, che si chiama Radio Lussemburgo, e quindi c'era una pulsione, una voglia dei giovani di evolversi, di fare qualche cosa, e quindi siamo, non avevamo l'unica musica bella che, italiana, rimane sempre quella napoletana, cioè noi retroterra italiano dove spingevamo, quindi abbiamo importato, abbiamo fatto da pionieri, abbiamo importato noi altri gruppi, altri cantanti, no, in quel periodo storico particolare, abbiamo importato non solo delle canzoni che i giovani volevano, ma anche una cultura, un modo di essere, una specie di trasgressione. La Beat Generation è stato non una ribellione, ma un concetto che nasce da Kerouac, Ginsberg, Ferrighetti. Sono praticamente due strade parallele, quella vostra, sì, della, sì, cover, sì, quella di Don Bucky invece da solista. Lui è stato solista, molto bravo a fare delle cose, ad attingere su delle altre delle melodie, però è una canzone che rimarrà nel tempo, la sua, come rimarrà nel tempo un Vendo Casa, L'Isola di White, Primo Giorno di Primavera. Sì. Beh, diciamo, voi altri eravate, diciamo, gruppi appunto nascenti sulla scorta di altri gruppi che arrivavano dagli Stati, certo, Uniti o dall'Inghilterra, certamente. Io, ecco, semmai ho fatto più parte della famiglia dei cantautori, a partire da Modugno, ricordiamo che insomma c'era gente come Bindi, Paoli, come Paoli, come Endrigo. Ascolta, ma di che anno è Immensità? Immensità è del 67, scritta nel 66 e presentata al festival del 65. Noi nel 65 noi sentivamo solo, eravamo dei complessi, c'erano 3500 complessi, allora giustamente. Tu ricordi, nel 65 c'è un mio brano che si intitola L'amore, io ho sempre, sì, cercato di creare, diciamo, sul solco della melodia mediterranea qualcosa che insomma avesse una sostanza che fosse mediterranea, appunto italiana, ecco, una via che facesse dire, ecco, questa è la nuova canzone italiana all'italiana, l'amore cara era del 64 addirittura, cioè la mia è stata una storia che ha fatto fatica a imporsi perché appunto era inedita da questo punto di vista, in un certo senso sì, facevo canzone originale. La cosa importante è che voi avete raccontato l'evoluzione anche del costume dell'italiano, raccontando quella canzone, la musica, cioè tuttora uno vi ascolta, vi balla, e come no, parla. L'unico modo che hanno i ragazzi oggi di ballare è quello. Siamo diventati vintage. Caro mio, però in discoteca, come metti una cosa o in una festa metti un pezzo vostro, la gente salza e balla. È così. Ne parlavo l'altro giorno addirittura con i cugini di campagna. Io non credevo che quella canzone bellissima, Anima Mia, fosse stata cantata da Frank Sinatra e dagli ABBA, per esempio, no? E allora come nascono certi successi? Uno deve ascoltare, io ascolto tutto, da Albano a Kay Jarrett, cioè tutto ciò, giusto, che è bello, la musica va ascoltata, va applaudita. Si differenzia per i generi, ma voglio dire, raggiunge il pubblico che ha quella sensibilità, che recepisce appunto quel tipo di melodia, di canzone, di testo, eccetera. Io non faccio mai differenze in questo senso. Vi tengo paralleli per un po', perché so che Pietruccio poi fra un po' deve andare con la sua band. No, ma sono qua, guarda, sono davanti al locale, quindi ho tutto il tempo che vuoi. Sì, no, volevo solo dire, dimmi, che la musica è quella forma d'arte che astratta, perché è fatta di puntini che magari nessuno conosce, no? Ma è fatta di vibrazioni, è una forma d'arte che capiscono tutti. Quando uno mi dice io non me ne intendo di musica, ma se tu lo metti ad esempio a sentire una bella canzone, ma andiamo sul classico, se vai a sentire, non so, un pezzo di Mozart o di Albinoni, cioè anche quello che non ha mai studiato musica sente che c'è qualche cosa, perché è fatta di vibrazioni, è un'arte, non è come la pittura, tu vai a vedere un Pollock, ma io stesso vado a vedere un Pollock o vado a vedere un Kandinsky, se non me lo spiegano, oppure Fontana, tu vedi questo taglio di Fontana, sai, quel famoso. Io ho avuto la fortuna che mia moglie me l'ha spiegato e me l'ha fatta amare, perché anch'io pensavo che quei tre tagli sulla tela, dico, ma che cosa, appunto, significa? Ma invece no, me l'ha raccontato. È un'arte che bisogna, l'arte della pittura che è concreta, o della scultura. E Don Bucky è un pittore, attenzione, attenzione, che Don Bucky è un pittore, è impropriamente detto. Pittore come me. Ecco. Esatto, parleremo anche di questo. E allora rimani con noi, abbiamo solamente pochi minuti di pubblicità, però ci andiamo con un altro piccolo grande successo, piccolo per modo di dire, ovviamente grandissimo successo dei Dick Dick, che stava, l'hai nominato tu poco fa, l'Isola di Wight. E poi andiamo in pubblicità, un minuto e torniamo. Va lo sta bene. Cercando okay. Alessandro, il nostro grande tecnico, che ringrazio, che lo bombardo, eccolo qua, a tra pochissimo con l'amico Don Baghi qui in diretta dagli studi Radio 24 e con Pietruccio dei Dick Dick. Cos'è l'Isola di Wight? Gioventù di chi canta ipi ipi ipi ipi ipi ipi ipi. E dall'Isola di Wight vi lancio il traffico, torniamo tra un minuto con Voice Anatomy, Pino Insegno, ma soprattutto Don Baghi e Pietruccio dall'altra parte, Montalbetti, questo è il cognome di Pietruccio. A tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, sono le 15:46 primi a 35 secondi, al mio fianco qui in diretta vocale e fisica Don Baghi, dall'altra parte invece dove sei Pietruccio, grande anima dei Dick Dick? Sono davanti a una grossa discoteca sulla quale, nella quale dobbiamo stasera fare. Quindi, e di nome, cognome, tempo. Dillo, è stasera, state no, lì. È 55, 55. Ah, tipo, tipo quella americana, però questa sta sì, a Milano. Sì, tipo quella americana, però sono arrivato apposta un po' prima, anche perché suoniamo presto, facciamo un'ora e poi ci dedichiamo alla nostra vita. Suonate presto perché siete persone che devono andare a dormire presto, Pietruccio? No, oppure... no, nelle discoteche è così. Nelle si discoteche... Si suona prima che dopo si balla. Esattamente. No, ma non è proprio una discoteca, è un posto un po' particolare, se no noi... discoteche ne facciamo poche, però questa qua è un posto poi tra l'altro a Milano, è la prima volta che molti milanesi ci chiedono dai perché non suonate qua a Milano, allora abbiamo... Vabbè, d'altronde quella è casa in qualche modo, Pietruccio, no? Ah sì, sono qua in Corso Lempione, io abito in centro. Esatto, gli ho preso un attimo, sono venuto a fare a piedi. No, io ricordo l'avventura dei Dick Dick, questo Dick Dick 50, il sogno continua, e poi anche l'avventura nuova di Don Baghi che è Pianeta Donna, insomma non vi fermate, signori miei. No, ci mancherebbe, no, fermate. Chi si ferma è perduto, esatto. Poi in più chi ha iniziato a fare questo lavoro, se smette, non dovete neanche iniziare, perché non si va mai in pensione, ci si evolve. Anche perché non c'è, te la danno. Il mio sogno è quello di diventare Buena Vista Social Club. Esatto, che non riconosci più neanche i parenti a un certo punto. No, le riconosco. Tu di che anno sei, Pietruccio? Qui l'abbiamo detto io di donna. Sono, no, io sono del 1941. Beh, ma sei un giovincello. Ho 75 anni, a 70 anni, però io sai che sono un viaggiatore pazzesco, perché dico che sono matto. A 70 anni ho scalato da solo la Concagua, 3.000 metri della Concagua. Ma tu sei un pazzo, ma come? No, certo, in che dicono tutti che... No, da solo, con una guida, però 2 anni prima ho scalato il Kilimangiaro con 3 Kikuyu e un Masai, ma... e poi ho girato le foreste amazzoniche. E che gli cantavi mentre salivi? Che quale canzone riuscivi a cantare? Niente, ce la fai lì con l'ossigeno, Tra l'altro io viaggio da solo, senza telefono. Non voglio portare il telefono anche perché... Beh certo, a 7.000 metri. Posso dove vado io? No, difficile che prenda. Sono nelle foreste amazzoniche, sono stato in India, cioè non stanno nella giungla, nelle giungle amazzoniche del Perù, dell'Ecuador, c'è della Bolivia. Non c'è la corrente, non sanno neanche gli indios veri, non quelli turisti. Ma Piero Angela dovrebbe fare un documentario su te a sto punto. Andiamo a parlare. No, fantastico il sabato sera della Rai, dove fa Piero Angela. In Tibet, in Nepal, dovevo stare via, sono partito da Kathmandu con 2 sherpa, dovevo stare via 2 settimane, alla fine sono stato via 1 mese e mezzo perché ho attraversato tutta la catena. Un vero viaggiatore. E sono arrivato... Perché sai, è un problema di interiore, per capire i popoli. Io non faccio un turista. Sei un antropologo tu. In un certo senso sì. Il mio sogno è quello di... Sono appena tornato dal Guatemala e ho studiato i geroglifici con un antropologo. Mi interessa, mi interessa tutto ciò che è la scelta. Curiosità è quella che salverà la gente sempre, certo, in ogni campo. Ma è bella questa cosa. Tu viaggi così? Io sono stanziale. No, io sono stanziale. Io altrettanto. Io esco da Monteverde Vecchio e già mi prende l'ansia a Roma, per cui pensate un po'. Ascoltare Pietruccio già mi è presa un po' io d'ansia. Io sono come Salgari o Salgari. Tu, esatto, ecco, scrivi senza io andarci. Io ho il mondo nella mia testa e nella mia stanza soprattutto. Tant'è vero, ci ho scritto anche delle canzoni in riferimento proprio a questo. No, io amo di più immaginare, tant'è vero che guarda, io adesso quest'anno sarà ripubblicato il primo volume che io ho scritto nel 67 per i tipi di Feltrinelli, che si intitola in maniera assurda, così come il libro Io che miro il tondo, un libro nonsense che invece poi alla fine ce l'ha, un suo senso ce l'ha. E quindi questo libro, te la racconto in breve, insomma, quando portai il brogliaccio a Feltrinelli c'era allora l'editor che si chiamava Enrico Filippini. Si chiamava, perché credo sia morto da molto tempo, insomma, e il quale si tenne sta serie di fogliacci messi lì tutti incollati, tutti scritti, e dice guarda, lasciamelo così com'è, perché lo faccio vedere a Feltrinelli, appunto, al capo, e a Gian Giacomo. E io dissi, ma guarda, te lo metto in bella copia se vuoi. No, io così, così. No, lasciamolo così, tanto noi, sai, facciamo, siamo abituati, va bene. Gli lascio il coso, dopo una decina di giorni mi richiama, vado là e dice, scusa, dice, ma tu sei mai stato in questi posti che hai descritto qui su sto libro? No, c'è stato dico, Pietruccio. No. Pietruccio sicuramente, io no. Gli dissi, dice, ma come hai fatto a immaginare? Perché guarda, se tu ci fossi stato, non li avresti descritti in questo maniera, modo qua. E allora dico, vabbè, io pensavo me lo ridai indietro, me lo tira in faccia. Esatto. Dice, no, dice, guarda, lo pubblichiamo, Gian Giacomo se l'è portato a Cuba, questo brogliaccio qui, sì, tutto. E quando è tornato ha detto, non toccate neanche una virgola. Beh, che bello. Lo pubblicate così come si trova, proprio non toccate neanche mi una parola. Mi ripeti il titolo, Don Bacchi? Io che miro il tondo. Ho trovato un editore pazzo di Firenze, Clichy, che quest'anno, lo al compimento di 50° anno dalla prima pubblicazione, appunto, si era liberato dai diritti di Feltrinelli. Strano che non ci ha ripensato Feltrinelli. No, vabbè, insomma. Ma... E tra l'altro fu anche un piccolo successo all'epoca, insomma, lo ripubblica quest'anno e quindi bene, sarà rieditato. Bene, guarda, un libro che esce, un teatro che apre, sono sempre le gioie più grandi. Dick, ma tu invece, Pietruccio, non hai pensato mai di scriverlo invece un libro? L'hai scritto, no? No, io ne ho già scritti 4. Esatto, per quello volevo farti la domanda. Della via standard. Sì. Il secondo è... No, dicevo sul viaggio proprio, sul viaggio. No, appunto, il secondo è Sognando la California scalando il Kilimanjaro. Eccolo. Il terzo io e Lucio Battisti, l'altro 70, l'ultima è 70 a 7000. E adesso ho spedito alla Mondadori, un po' in giro, un 2-2, ne ho 8 pronti, no? Ma ci siamo uno in particolare. Mamma mia, Pietru! Ma che sei prolifico, veramente! Ma stai viaggiando, ti si apre la mente. E di canzoni nuove l'hai scritte con quelle, tramite questi viaggi tu riesci ad avere anche l'intuizione? La canzone di cui parleremo, che deve far riflettere, infatti l'ascolteremo. Che è Sulla nuvola. Sì. Cioè, il libro che io ho presentato si intitola Io e la mia Amazzonia. Sono 3 mesi nei quali 15 giorni mi hanno dimenticato in una zona dove c'erano gli schivaro, sono dimesso, non te lo so spiegare. Sono venuti i camaleonti e l'Equipe 84 e te sono venuti a riprendere, come Rambo. No, sono venuti, veramente, io ho un buon, cioè, quando i miei genitori sono morti, non eravamo né poveri né ricchi, no? Però non mi ha lasciato niente di materiale, ma mi ha lasciato un buon DNA. Poi io non ho mai fatto uso di droghe, ho sempre fatto, non fumo, non bevo. Certo, non sono santo, in quei posti, no? Che hai navigato non era facile rimanere esenti. No, e poi ho sempre fatto palestra, sempre, continuo ancora adesso a fare palestra. Beati e voi. Faccio e mi alimento in maniera, io non credo nelle diete, ma nell'educazione alimentare, quindi certe cose... Non le mangio, mangio poca carne rossa, mi alimento bene. E quindi ho 75 anni, ma ho ricevuto un DNA molto forte. Beh, devo dire che pure da quest'altra parte, a parte i capelli bianchi, che ho anch'io da 30 anni, cioè, se mi si è presentato sto giovincello con un maglione arancione acceso, gli ho detto anche se lo può spegnere durante la trasmissione. Ma siete, anche a te ti ho rincontrato ultimamente in trasmissione, devo dire che è vero, c'è un segreto, che il segreto è vivere la vita con grande gioia, con grande entusiasmo, con grande curiosità, ogni giorno come fosse il primo, passione per quello, non l'ultimo, perché poi ogni tanto capiterà che l'ultimo sia veramente quello, per cui meglio viverlo come il primo giorno, eh? Sì. Passione per quello che dice, mi sembra Bernard Shaw, adesso non mi ricordo. Siamo io e Bernard Shaw, l'abbiamo detta, sì, dimmi. Cioè, dice, il passato è un ricordo, il futuro è un mistero, il presente è un dono, quindi noi ogni giorno dobbiamo pensare che è un dono quello che noi viviamo, e non sappiamo se arriveremo la sera. Io non sono superstizioso, non me ne frega niente. Ci arriviamo. A stasera è sicuro. Tu devi fare il concerto. Bisogna godersi il momento in cui stiamo vivendo. Questo sempre, è questa, sempre. Importante. È bello che oggi, vedi, a Voice Anatomy abbiamo un discorso di cultura generale approfondito, di viaggi, di filosofia e di storia. Noi andiamo adesso in pubblicità, è la pausa lunga questa. Allora, Pietruccio, ti chiedo la cortesia di resistere, setto, ti richiamiamo. Ovviamente fra 7-8 minuti ci abbiamo la pausa un po' più lunga per il GR e torniamo in diretta con te e con Don Bachi, va bene? A tra pochissimo, Voice Anatomy. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Voice Anatomy. Eccoci signori miei, bentornati. Voice Anatomy Radio 24, 16:06:39. Don Bachi alla mia sinistra, in linea diretta telefonica Pietruccio dei Dick Dick, sempre lì davanti al locale dove stasera canterai prima di far ballare, prima che balleranno tutti all'interno, ma riuscirete ancora a suonare i vostri grandi successi, visto che c'è questa bellissima nuova avventura. 50 anni e il sogno continua, non finirà mai questo sogno, anche per il grande Don Bachi con Pianeta, Donna. 55, è più anziano, questo è anziano rispetto a voi, questo è nonno donna rispetto ai Dick Dick, hai capito? Però abbiamo in diretta telefonica anche Mirko da Genova, che è un amico, non soltanto un amico di Don Bachi, ma che è il capo del fan club di Don Bachi. Vabbè, Mirko, ciao. Ci sei anche tu. Ciao a tutti, ciao Aldo, ciao Pietruccio, ciao Mirko. Grazie per l'intervento in diretta. Hai visto quanti siamo, quante linee telefoniche abbiamo a Radio 24? Questa è la radio Confindustria, mica. È un piacere. Allora, io veramente ti ringrazio, ma la parola capo è troppo, capo per dire, diciamo, tieni le fila di questo fan club. Diciamo che faccio parte di questo fan club super attivo del Don Bachi Official, appunto, fan club, e siamo proprio tutti in ascolto in questo momento e io ho provato a interagire e vi ringrazio davvero. Diciamo sei il portavoce in questo momento. In questo momento, il portavoce, sì, grazie, dai. Grazie a voi. Ci mancherebbe. Quando è nato questo amore profondo per il nostro Don Bachi? Da sempre. Sempre per Don Bachi, guarda, lui lo sa, io sono cresciuto a pane e Don Bachi. Eccolo là, appunto, Pietruccio, e Pietruccio c'era però in mezzo a tutto questo ogni tanto. Pietruccio certo, ma Pietruccio sa chi sono, e come no. Ah, ti conosce, Belin, dai. come no, guarda, io praticamente crescendo appunto con una base, prima hai menzionato appunto che questa musica si sente ancora nelle discoteche e fa ballare. Io sono un quarantenne, che ascolto solo musica appunto inerente ai meravigliosi anni, ovvero dove vi è la melodia, ecco, io sono presente all'ascolto, ecco, quindi amo tutta questa musica che praticamente fa parte di un percorso musicale dove c'era più melodia. Quando quindi ancora potevi parlare con la persona con cui ballavi, potevi chiedere addirittura come si chiamava senza urlarglielo nelle orecchie e riuscire ad avere un momento di osmosi fisica importante e intellettuale, ma rimangono ancora, io vedi con i miei figli eccetera, queste sono le musiche che si ascoltano, che si ascolteranno per sempre. Uno dice bello questo che c'è adesso, hip hop, biribim, rap, panzas, ma fra qualche anno te lo sei dimenticato, ma il nostro concerto di Bindi lo ascolterai sempre, no? Non te lo scordi più. È vero, Pino. Pino, mi raccomando, fai parlare di, del brano capostipite di questo bellissimo album che è Pianeta Donna. Brinderò. Sanno tutto questi qua. Va bene, Mirko. Grazie della tua testimonianza. Brinderò. Grazie, grazie a voi. Grazie un abbraccio a tutti, domenica. I seguaci del Grande Don Baghi. Ha colpito nel segno appena uscito. So però che è già in classifica, sì, poi oltretutto, sì, no? È entrato nei primi 50 sì, esatto, sì, posizioni. Top 100, sono entrato a metà, ma è da 10 giorni. Piano, è un grandissimo risultato, secondo me. Il disco è destinato a salire perché, parte questa canzone qui particolarmente. Dopo l'ascoltiamo. Brinderò, che ha colpito subito nel segno, devo dire. Però ci sono delle canzoni che adesso gradatamente stanno scoprendo man mano, hanno bisogno di un'attenzione in più, di qualche ascolto in più, ma stanno piano piano, diciamo, scalzando la Brinderò dal primo posto. Ma continui nella tua ricerca, come beh, certamente io, infatti ci sono dei brani qui, dopo sicuramente dopo ce li ascoltiamo sicuramente, esatto. Sì, sì. Addirittura c'è Luzzatto Fegiz che ha parlato di musica progressiva, cosa che prog. Per me è addirittura è abbastanza, insomma, inusuale, però io anche quella immortale, arrivo, prog degli anni, degli anni 70. Io ragazzi. Arrivo Pino da un'epoca in cui il rock and roll è stato per noi ragazzi di quella generazione è stato ispiratore, cioè certo. Io con una chitarra e tre accordi facevamo il rock and roll la domenica imitando Elvis Presley in queste balere di provincia, ovviamente. È chiaro che sono preparato anche a cantare, diciamo, di un genere che per altri potrebbe sembrare, diciamo, impossibile, incredibile, considerando la mia carriera da melodista, diciamo, ecco. Ma in realtà io posso cantare dal blues al rock, non c'è nessun problema per me, perché ho avuto le esperienze giuste in passato. Esatto, tutto quello riesce poi a rimetterlo su carta e penna, su pentagramma, infatti, con le nuove espressioni. E infatti c'è questo brano che si intitola Rapsodia in Red. E anche questo ce l'ascolteremo. Esattamente, che è appunto esplicativo moltissimo di quanto ti ho detto. Tu invece, Petruccio, dovresti fare un esercizio di stile anche in tutti i posti dove sei stato e fargliele cantare le vostre canzoni in tutte le lingue. Cioè, tutto no. Ma in Patagonia, no, è il primo giorno di primavera lì, cantato in un'altra lingua. Un paese dove non sono stato, io sono stato da tutte le parti, in Patagonia, stai parlando di Patagonia. No, io ho detto così. Sei stato pure in Patagonia, io non so neanche che provincia fa. Patagonia è una cosa enorme. No, però poi quando vuoi parliamo di questa canzone. Sì, adesso infatti te l'avrei chiesto perché fra un po'. Perché... Sì, questo sulla nuvola che fa è l'inedito che fa parte di questa collection di 50 anni Il sogno continua, ma io ce l'ho e noi ce ne ascoltiamo un po', sì, dai. Sì. No, ma dimmi. Ha anche un significato che bisogna spiegare un attimo. Allora aspettiamo un attimo, sta in sottofondo, no, adesso lo rimettiamo. Bisogna riflettere su questa canzone. Va bene, allora ascoltiamole. Ascoltiamola. E mi chiedo se fossi seduto su una nuvola come in un prato e guardando il mondo dall'alto rendermi conto di cosa non c'è. Non si vedono varchi e frontiere e degli uomini non vedi il colore. È un peccato per chi non riesce a capire e gridare la gioia infinita della voglia di essere in vita e sentire che l'unico grido non si porta il dolore con sé ma soltanto le voci di gente che cantano forte che cosa importante che John Lennon lo immaginava già. Sulla nuvola ci vorrei anche te. Ora che di me hai capito l'essenza speranza. Stringimi adesso e portati il mondo. Stringiti adesso e portami il mondo. Ehi, sulla nuvola, come viaggi tu? Come viaggi tu no, sulla nuvola? Il fatto è che queste nuvole, innanzitutto questa canzone è tratta da una proposta ed è in linea con quello che sta succedendo adesso, cioè guardando dall'alto tu non, cioè, in questo momento si stanno creando dei muri, dei confini che sono veramente delle cose. In più c'è un senso di non so come dire, di idiosincrasia per il diverso. Sì, cioè, c'è la paura, la paura del diverso. Per la paura, ma anche questo del razzismo, la gente pensa tutti neri, bianchi, noi siamo tutti uguali, siamo tutti figli di questo nostro grande pianeta. Io non dico figli di Dio perché io per mia disgrazia non ho fede, però siamo facenti parte di questo astronave che sta viaggiando, chi sa dove, non si sa dove va e non sa da dove arriva. E quindi è una canzone che può far riflettere, perché contro questi muri che si stanno alzando, fra un po' diventeremo ritornare al muro. Ritornerà il muro. Senti Peduccio, rimani con noi ancora un secondo, andiamo a pubblicità, poi ti saluto bene, ovviamente rimango poi con Don qui, va bene? A tra pochissimo. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno al mio fianco Don Bachi, e voglio salutare con grande affetto Pietruccio di Dick Dick, e voglio ovviamente invitarlo qui quando sarai di passaggio a Roma per affrontare un viaggio, nel viaggio in tutti i sensi, visto che tu viaggi tantissimo, e ti saluto con una tua vostra grandissima hit. Sono molto io sono affezionato a Viaggio di un poeta, per esempio. Che è un po' la mia storia. Esatto, e allora io ti saluto con quella, anche se il primo giorno di primavera l'abbiamo superato da qualche giorno, anche quella grandissima rapporto con Miguel Battisti, eccetera. Un saluto affettuoso a Don Bachi, che ciao, ammiro Pietruccio, anche perché ha scritto tante cose. Siete una bella coppietta, devo dire, fra tutte e due, però noi non viaggiamo, E poi sai perché lo ammiro, a parte per la musica? Perché come me e come tanti altri non si tinge i capelli. No. Ecco. E neanche i pensieri, pensa e lo dice. Solo quelli sono sempre quelli originali di un tempo. È sempre un guerrigliero. Si dipingono i capelli, cioè gli inglesi fanno questa cosa qua. Io poi quando la gente mi chiede quanti anni hai, c'è qualcuno che tira indietro 10 anni, ma io ho 75 anni, fra un po' ne ho 76, e sono orgoglioso assolutamente di essere ancora bene, perché non dimostrare quello che sei. Esatto. Certamente. Io, non ci siamo rifatti neanche le labbra, assolutamente. Sto navigando il 78esimo e adesso a agosto lo lascio anche andare. Arriva 79, arriva 79. Prima di te 80 questo. Allora, caro poeta, io ti saluto con queste note di Viaggio di un poeta in bocca al lupo a te e agli altri tuoi colleghi, Pedruccio, ovviamente. Saluto. Grazie. Con grande affetto. Ciao. Viaggiamo con questo poeta, vai. Ciao. Grazie. Lasciò il suo paese all'età di 20 anni, con in tasca 2 soldi e niente più. Aveva una donna che amava da anni, lasciò anche lei per qualcosa di più. Promise a se stesso di non ritornare al vecchio paese della sua gioventù, dove nessuno voleva sognare i campi da arare e niente di più. Cominciò così a fare il vagabondo, girando paesi e città. Cercò la fortuna nei quartieri del mondo, dimenticando la sua povertà. Questo Viaggio di un poeta, rimaniamo qui questi ultimi 40 minuti insieme a Don Bachi per raccontare la sua storia, una storia importante, veramente, come hai detto alla fine, non siete con i capelli tinti ma neanche i pensieri tinti, tu hai sempre detto e pensato le cose, sì, no, nei limiti, diciamo, ma sempre con grande forza, che con la grande democrazia verità mi concede, ecco, io non ho mai prevaricato nessuno, però fin dove arriva il mio senso di libertà, per cortesia, insomma, lasciatemelo. Esatto, la mia libertà finisce dove la vostra comincia, e viceversa. Ecco, e io voglio cominciare da un percorso della tua vita, visto che ho degli autori validi come Alessia Navarro e Mauro Meconi. Allora voglio percorrere con te a provincia. Tutti conosciamo che lavoravi in una conceria di Pellamo. Questo è proprio sì, l'inizio, sì. Don, com'era la tua vita allora? Coltivavi già i tuoi interessi artistici? Quanti anni avevi soprattutto? No, guarda, che è stato casualmente che ho cominciato. Tutto sommato, se non avessi visto un film deflagrante per quel che ha rappresentato poi per tutto il mondo nel rinnovamento della musica leggera, ovvero Senza tregua rock and roll, un film con che vedeva protagonista un certo Bill Haley di Scomez, il quale cantava appunto questo Rock Around the Clock, che poi ha travolto tutto ciò che era stato la musica che era stata la musica leggera fino a quel momento, insomma, nel mondo. Certo. Ecco. Quindi in un certo senso io, vedendo quel film, ho abbracciato l'idea di diventare cantante di rock and roll, e quindi, come dicevo anche prima, ho iniziato con un gruppetto di ragazzi che, guarda caso, si chiamavano Kiss. Certo, sì, che non hanno nulla a che vedere con quei quattro pazzi. Nel 58-59 non c'erano ancora. I Kiss ancora non erano nati, quelli americani. Quindi sicuramente, insomma, eravamo abbastanza avanti, c'erano dei bravissimi musicisti e facevamo questo genere. Io però lavoravo in un ufficio di una conceria e sicuramente non vedevo di buon occhio il mio far fatture e bolle d'accompagnamento, insomma, non era la mia. Eri già artista. Assolutamente, insomma, sentivo che non era quella la mia strada, non sapevo esattamente cosa avrei fatto, fino a quando un giorno un mio carissimo amico, anzi direi il mio carissimo amico, quello del cuore, insomma, quello col quale in una branca di amici hai più feeling che con altri, ha pensato bene di scappare con una ragazza del quale si era innamorato, e a me è scattata l'idea di raccontare questa sua storia in una canzone, che è la mia prima canzone in assoluto, che si intitola La storia di Frankie Ballan. Eccola! È una ballata western. Ma quanti anni erano questi, Don? No, qui quando l'ho scritta era il 1960, perché la storia è accaduta in quell'anno lì, all'inizio. Poi è veramente inusuale per quel periodo questa ballata western, infatti, ci riguarda, no? Me lo sono dovuto produrre da solo, intanto, il primo disco di questa canzone, e me lo sono prodotto io da solo, pagando 50.000 lire. Che insomma, non era male, 57 tanti, anni fa. Erano tanti. E poi è stato quello che mi ha aperto le porte dell'Empireo, perché l'ho mandato questo piccolo provino disco a Adriano Celentano. Al clan, il clan ancora no, l'avete fondato voi dopo. Esatto. Sì, ci arriviamo piano piano lì. E a lui evidentemente è piaciuto questo strano binomio di musica. Ma sì, ma anche diciamo come vocalità, ecco, se vogliamo, perché non so se hai fatto caso, ma questa voce nasale oggi è molto country western. Sembrerebbe anche un po' alla Ramazzotti, se vogliamo, sì. Se fai caso, no? Sì. Con le adenoide. Ma anche Neil Young, tutto il country sì, molto sì, nasale. Cantano un po' così. Per cui, in un panorama in cui bene o male ancora c'era il fine dicitore come cantante, il crooner, insomma, esatto. E questa cosa qua, per Adriano, che cercava amici che fossero un po' estrosi, un po' esatto, allora mi scrissero, io andai a Milano e mi scritturarono. Questo, insomma, fu il tuo primo 45 giri? Sì. Ma avevi come pseudonimo questo Agathon, eri tu? Esattamente, nel disco provino che realizzai io mi chiamavo infatti Agathon e oggi va per la maggiore, sai che è l'ultimo che ho venduto, che li ho solo io peraltro, 1800 euro mi è stato pagato. Ma dai. Quindi sì, assolutamente sì. È vero che in internet vanno fortissimi. Ma stai scherzando, no, ma no, ci no. sono i collezionisti che, sì, che sì, è vero, per averne una copia. E quando io ho venduto questo a un signore, va bene, appena gliel'ho dato ha detto: guarda, ho già guadagnato 1200 euro, me lo pagano 3000. Hai capito? Detto, no, è vero, io anche a casa ho il jukebox con i 45 giri e ho qualcosa di importante, eccetera. Però è vero, il collezionismo ma, è... Poi per essere Don Bachi, ma con un nome diverso e con un brano che poi ho fatto con Clan, capisci? Esatto. Cioè la storia di Frankie Ballan è stata il mio primo disco Clan. Capisci? Quindi insomma, questa avventura assume un... Non me ne hai portato uno di questi 45 perché ci ho già guadagnato 4000 euro, no? Vabbè. Ce n'ho ancora qualcuno ma insomma, sì, qualcuno. Vabbè, spero che diventiamo così tanto amici da poter fare un business insieme a Don Bachi. Dai, vediamo. Piano piano. Senti, per cui questo è stato lo startup importante. Tu sei entrato nell'etichetta discografica di Celentano, è stata un'impresa ardua. E che è successo poi? Beh, siamo andati avanti. Il primo cantagiro. Esattamente, quello accade nel 1962 proprio con la storia di Frankie Ballan, dove io nel girone giovani, diciamo, allora io ero appena un debuttante, sono arrivato secondo, al primo posto si classificò una ragazza, si chiama Donatella Moretti, non so se... Sì, io me la ricordo, ecco, vagamente. E sì, non ha avuto poi una gran carriera come cantante solista, ma insomma diciamo che vinse quel primo cantagiro nei giovani e io arrivai secondo con questa strana canzone, appunto, sì, la storia di Frankie Ballan, che sorprendeva tutte le sere quando le giurie alzavano le palette e io prendevo dei voti incredibili per quel brano. Esatto, insomma, aspetta, ecco. Per un periodo storico che ancora non aveva e ascoltato poi, queste sonorità. Poi, assolutamente, e da sconosciuto com'ero, insomma, fu il mio primo successo, se vogliamo. Ancora non Don Bachi, però ancora non Don No, lì ero già Don Bachi, sì, Clan Celentano. Clan Celentano, per cui sì. Don Bachi. Io ho fatto il primo cantagiro. Infatti. Allora, caro Don Bachi, resta qui perché andiamo un secondo in pubblicità, un secondo, qualcosa di più e torniamo con te. Va Guai bene? A chi mi sposta. No, non ti muovi, sta buono. Piaghe da decubito. A tra poco. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, 16:31 e 44 secondi, colgo l'occasione per salutare la nostra messa in onda di Milano, c'è Valeria che conosco personalmente, non per altri motivi, lo conosco perché una volta sono stato a Milano e mi ha accolto Valeria, di qua c'avevamo Valerio, la pensano ugualmente per quanto riguarda le squadre di calcio, ma noi ci vogliamo bene, lo dico sempre, si vive in una società multilaziale, per cui ormai bisogna accettarci, Don. Caro Don Bachi, stavamo camminando proprio passo passo la tua carriera, però io mi voglio sentire io una canzone tua che si chiama Canzone. Oh, io me la voglio sentire un pezzo, sì. Vai. Qualcuno ha scritto il più bel cambio di tonalità della musica leggera. Mi piace molto questa canzone. Prego, guarda se vi apri i ricordi. Sei come un'ombra che non tornerà mai più. Tristi sono le rondini nel cielo mentre vanno verso il mare. È la fine di un amore. Io sogno e nel mio sogno vedo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più. Quando siamo alla fine di un amore, soffrirà soltanto un cuore, perché l'altro se ne andrà. Sto pensando ai miei domani, son bagnate le mie mani, sono lacrime d'amore. Nel più bel sogno ci sei solamente tu. Sei come un'ombra che non tornerà mai più. Questa canzone vola per il cielo. Brividi, brividi. Ma che bello, è vero, un gran pianoforte. Questo è un maggiore su maggiore, sono due aperture. È bellissimo, perché effettivamente mi ha scritto uno, sai, di quelli che scrivono su Facebook queste cose qua, e dice: il più bel cambio di tonalità della storia della musica leggera. Io non ci avevo mai fatto caso, sì, lo so che cambi di tonalità ce ne sono tanti, però questo effettivamente... Questa canzone io la avvicino molto, perdonami, al mondo di Jimmy Fontana, quando le sento a me mi si apre il cuore, apre in qualche cuore. Modo, e poi anche un'occasione per ricordare... ricordare Jimmy, sì, perché è persona adorabile. Certamente. Allora, qui arrivano tantissimi messaggi di ringraziamento della puntata, della tua grande professionalità. Poi parlano dell'età, qui Giuseppe, qui sono, no, dell'età nel senso, qui sono molto attenti i nostri ascoltatori, devo dire, sono mediamente alti come proprio a livello intellettuale. Mi parla Giuseppe, dice anche la fortuna genetica, che non dipende da noi, conta qualcosa per un'età biologica confortante rispetto all'età anagrafica, avendo cura di non comprometterla, la fortuna con sfavorevoli abitudini. Saluti e complimenti a tutti da Giuseppe. E qui parla anche Maria Laura, voi anatomi di Voice Anatomy, caro mio, il 1941 è, a parte la guerra, un anno magico. La lista si allunga, eccetera eccetera. Salutatemi Don Bachi, bravo Don, eccetera eccetera. Tanti, qualcuno dice: hai pure il jukebox a casa? Sì. Il tuo monumento cresce, vabbè, ma non è quello, insomma. Allora caro Don, siamo arrivati al primo cantagiro, però parliamo, tu sei anche un attore. Sì, teniamo presente, c'è un disco nuovo da assolutamente, far ascoltare. Assolutamente sì, infatti adesso dopo questa domanda facevo ascoltare subito un pezzo di quello nuovo, perché c'è il Monaco di Monza con Totò e con Corbucci, regia di Corbucci, che ricordi hai di questa realtà? Straordinario. Com'è nata questa cosa dell'attore? Ricordo, è nato, cioè questo film è nato casualmente, perché una notte eravamo, era 62, eravamo... appena finito il cantagiro stavamo facendo la colonna sonora del film Uno strano tipo, che avevamo girato, vabbè, Adriano era il protagonista, noi del clan il contorno al solito, ed eravamo alla RCA di notte, perché noi incidevamo solo di notte, facevamo l'alba insomma in sala di registrazione, e a un certo punto verso mezzanotte Adriano mi fa, stavano incidendo appunto la colonna sonora del film Uno strano tipo con i Ribelli, detto Mariano faceva gli arrangiamenti, e Adriano mi fa: senta, andiamo a prendere un caffè al bar, all'RCA, c'era un bar appena si entrava prima, quando esisteva appunto l'RCA. Siamo andati, e a un certo punto, mentre siamo lì al banco, arriva Sergio Corbucci e fa: oh, ciao Adriano, saluta Adriano. Io ero ancora sulla rampa di lancio, diciamo, e dice: che fai qua? Dice: ma sto facendo sto seguendo la colonna sonora del film Uno strano tipo. Ah, e tu? E io anche, sto seguendo la colonna sonora del film Il Monaco di Monza, che sto girando con Totò. E poi si ferma un attimo, lo guarda Adriano e fa: senti, ma perché non mi vieni a fare una scena nel film con Totò? E mi fai la parte di un frate che va in giro a chiedere l'elemosina. E Adriano fa: perché no? Dice: veniamo. E Sergio fa: venite chi? Io e lui fa. Infilato in mezzo a lui così. E io stavo a sentire, facevo: ma vabbè. Veniamo io e lui, sai, lui adesso fa un grande successo, perché io adesso lo lancio. Adesso fa un disco fortissimo che si intitola Amico, che mi ha dedicato. Adesso dice: che cosa potremmo venire a fare nel tuo film? E Corbucci fa: ah, non so, potete cantare una canzone. Ma dai. Ah sì, fa Adriano, ce l'abbiamo un pezzo. E che avete cantato dentro il Monaco di Monza? E dice: ci abbiamo. Io stavo a sentire: ma quale canzone facevo fra me e me? Ci abbiamo, che può cantare due fraticelli, un film del 1600 con Totò, il Monaco di Monza. Vabbè, allora venite domani mattina alla De Paulis, vi truccate da frati, esatto, e poi fate. Girate la scena con sta canzone. Che canzone è? Ah, bellissimo, cazzo, si adatta benissimo, stai tranquillo. C'era. No. Va via Corbucci e Adriano mi fa: oi dai Don, scrivi subito il pezzo. Per cui avete scritto un pezzo al volo di notte? L'ho scritto lì in un paio d'ore, ho scritto il pezzo, alle 2 era finito il pezzo, alle 3 era finito la registrazione, esatto. C'era Mariano lì, gli ho fatto sentire, lui l'ha presa lì, ha fatto l'arrangiamento al volo, i ribelli, alle 3 avevamo il nastro pronto, alle 7 eravamo alla già sul set, ma che bello, fateci la carità. Ma che bello, andate a sentire. Allora, abbiamo in linea Lino Mazzariello, lo conosci? Mazzariello, scusate, Mazzariello, non lo conoscevo io. Lino Mazzariello è il regista di alcuni tuoi videoclip. Sì, sì. Beh, regista è un po' troppo. Aiuto, assistente medico, infermiere. Il creatore di alcuni. Il creatore. Quindi anche regista, se vogliamo, Lino. Ma no, non esageriamo, dai. In più, Brindarola abbiamo. A proposito, buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao. Buongiorno, ciao. Lino. Mi fa strano parlarti per radio quando io e te invece ci parliamo ogni giorno come degli innamorati per telefono, comunque. No, con quale registi? Il Prenderò l'abbiamo realizzato insieme, sì, per telefono, bisogna dirlo. Io ti posso dare dei suggerimenti, dei consigli, ti dico metti questa allora base, fai così, Lino, visto che io prima che finisce questo blocco me lo voglio ascoltare, cominciamo ad ascoltare l'ultimo disco. Prenderò, ce l'ascoltiamo, resta con noi, vai! Per te io, per tutto quello che sei, per tutto quanto mi dai, per questo brinderò io, per l'odio grande che era la tua casa e per le stelle che dai in cambio di una mia rosa, perché sei viva, sei dentro di me, per le poesie che mi sai risvegliare, brinderò per te, donna che porti dentro te la vita che c'è in te ed hai nelle tue mani il mondo. Bella, se sai, sempre questi cambi vocali, ragazzi, questo significa aver mantenuto, noi facciamo Voice Anatomy e spesso vengono qui chirurghi, vocologi, tecnici della voce, tu non hai, questo dicevo, era un pezzo che hai fatto dopo canzone, ci si credeva, sì, sì, cioè, la tua vocalità è rimasta quella, rimasta integra, anzi, guarda, io non so se per quale miracolo, ma credo che abbia acquisito una potenza superiore a quella che avevo quando avevo 30-40 anni. E l'hai mantenuta, sai, sì, evitando magari di whiskeggiare, di fumare. No, io non bevo nessun tipo di alcol, non fumo certamente, perché bisogna anche rispettarsi, è un mestiere questo, che bisogna appunto che tu mantenga uno stile di vita che sia consono anche alla professione. No, ma poi hai un ritmo vocale, io facendo doppiaggio da tanti anni, bene o male, tu hai 78 anni. È esatto. Un ritmo vocale, è una vocalità, è una voce che non ha assolutamente questa età. Sì, adesso chiamo il mio amico Diego Cossu, che è un grande, a parte chirurgo, cioè otorino e quant'altro, e dico: quanti anni ha Don Baghi vocalmente? Dirà una cinquantina. Beh. No, ma è così, non potresti mai doppiare un 78enne in un film, no. Non te lo faranno doppiare, no. Bella, questi cambi di tono freschi. Allora, Carolino, questi video li vediamo, li abbiamo presi anche noi per metterli sul nostro sito di Voice Anatomy su Facebook, immagino voi vedete anche... Sono bellissimi, davvero. Veramente. Dove possiamo vederli, a parte nel nostro sito che abbiamo scaricato e me li ha portati? Al momento sul mio sito Facebook, Aldo Caponi. Aldo Caponi è il sito? Assolutamente sì. No, non Don Baghi. No, no, non è Don Baghi. Se uno Capone. Ti cercava, magari oggi cercava Don Baghi. Vabbè, pazienza. Aldo Caponi, signori. Prima o poi finisce per trovarti. Per trovarmi, sì, sì. Come Equitalia, perché prima o poi ti trova. Assolutamente sì. Beh, assolutamente sì. Com'è lavorare con donne, Lino? Prego, com'è, ho capito. Com'è lavorare con donne, Lino? È piacevole. Io Don Baghi lo conoscevo come artista, come interprete, quando Celentano era ancora Celentano, senza fare polemiche. Certo, non l'abbiamo neanche aperta. No, ma l'apro io. Anche se, però ho scoperto il Don Baghi uomo, non per le sviolinate, io poi non so suonare, allora. Però ho avuto modo di conoscerlo direttamente, live, come dico io, ma lo conosco quasi ogni giorno al telefono per le idee, i dubbi, come realizzare un video, come lui lo vuole, come io lo interpreto e lui mi suggerisce. È bello, un lavoro di equipe. Però è nata così, era nata quasi una polemica un giorno, perché io avevo la testa dura di mettere sempre una donna un po' strana nel video e a lui faceva paura questa donna, ha detto no, Lino, toglia da quelle. Via, mi mette ansia. No, nel contesto invece poi aveva ragione tutte e due. Ma il disco ovviamente si intitola Pianeta Donna, non a caso, esatto. È un disco dove le 12 tracce sono assolutamente tutte dedicate all'altra metà del cielo, come di consuetudine definiamo la nostra compagna, e una particolarmente, quella che dà il titolo a tutto il lavoro, ovvero Pianeta Donna, è una canzone che conta ben 10 strofe. Vabbè, 10 strofe. E io ho cercato, creando attraverso un puzzle, diciamo, di riempire tutte le sfaccettature, secondo me, ci sarei riuscito con questa canzone, che compongono la donna, appunto. E allora ce l'ascoltiamo. Guarda, rimaniamo insieme, perché andiamo un attimo in pubblicità, torniamo e abbiamo gli altri 15 minuti insieme. Va bene, io Lino ti ringrazio di questa testimonianza. Un abbraccio. Grazie Lino. Ciao Aldo. Sempre, come dicono tutti i messaggi. A tra poco, voi sanatomi e chiudiamo con il grande Don Baghi. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Voice Anatomy. Siamo entrati nel pianeta donna e allora ascoltiamolo. Yes. Dei tuoi capelli ne parlasse il sole, così la pioggia oppure le viole, e il taglio dei tuoi occhi sorridenti fosse il quarto di luna di sognanti, e quel tuo naso che ti prezzi tanto, così da dedicargli anche il tuo pianto. Cleopatra presentasse bello e altero, ed io novello Cesare lo adoro. Che il mare fosse a rivelare il sogno, dove tu vivi, quale sia il tuo regno, e quel misteri chiusi nel tuo scrigno, vorrei stringerli al cuore nel mio pugno. Vorrei che Salome fosse narrante, la danza del tuo ventre palpitante, che fosse Giove a dir con i suoi dardi dei fulmini che lanci con gli sguardi, che fosse Nabokov a coniugare passione più erotismo più candore, un piede nell'abisso, un altro in cielo, regali anima tuo volo. Cupido ti ha chiamata solo amore ed ha creato immenso anche il tuo cuore e una saggezza grande quanto il mare. Ti si conquista solo con rosa fumetto invidia raccontasse per il tuo fondo schiena e invalidisse che frine d'Afrodite dove siedi strisciassero per invidiarti i piedi per sempre mille volte mille ognuna lodasse il corpo tuo luna, per te del lago passerei la cruna, ti proteggesse dea della fortuna. Gli Aristogatti, jazz, qui, blues, c'è tutto qui, qua dentro. Tutto. Infatti ti dicevo prima che non ho nessun problema a cantare alcun genere io. Ma sei migliorato tantissimo, non che prima non eri in grado, ma... No, ma diciamo che sono vocalmente sicuramente sei sì, veramente pazzesco. Lavoro anche con un grande maestro arrangiatore che si chiama Enzo Polito. È giusto ricordarlo. Assolutamente sì, che ha una band composta di tre fratelli, cioè no, loro sono tre fratelli, più due figli suoi e tutti orchestrano, tutti musicisti tutti in questo disco sono tutti in questo disco. Mi ha detto in confidenza che le 12 tracce più pregherò l'hai incise in un giorno. Sì, non volevo che tu lo dicessi nel senso in un giorno, vabbè, dopo che ti sei preparato tantissimo, cioè non è che entri in sala buongiorno buonasera e canti 12 tracce, è praticamente cioè, così quando uno è vabbè, ma questa è grande professionalità. Io pure certi film li finisco in un giorno e doppiaggio, ma non vuol dire minimizzare un grande lavoro. Assolutamente, dire essere preparati. Ma lo sai perché? Noi avevamo fatto i conti di farne tre al giorno, quindi in quattro giorni ne uscivamo. Però finita la terza facevo, Enzo, ne proviamo un'altra, dai, proviamo quella lì. Dai, ti sei casato, andava bene, stavi bene vocalmente, dai. Poi una volta e via, senza ripetere, lui faceva, guarda che stava bene, allora facciamo un'altra, dai. E piano piano avevamo fatto tutte e tre. Ma quando sei pronto vocalmente, la stessa cosa quando nel doppiaggio prendiamo il via su un personaggio. Se ce la facciamo, perché torna il giorno dopo rischiando di perdere quella vocalità o quella... Bravo, guarda, quell'intensità, la stessa cosa facciamo noi. È stato, diciamo, la spinta, la molla che ci ha fatto andare avanti, perché facevo, guarda, perdiamo il feeling. Poi è stato lui a cercare di convincermi a andare fino in fondo. E tu guarda, poi perdi quel colore, quella cosa, è peccato. Abbiamo allora... soltanto ancora due minuti, vero? Mannaggia. Mi metti però in sottofondo un Rhapsody in Red o nel vento, sì. Rhapsody in Red, vai. Intanto torni, tutta, non c'è tempo, tutta purtroppo. Però l'ascoltiamo. Regala sogni, li colora. È la mia. I Queen sono tornati, che grande, ma che bella cosa. Poi è tutto vario, diverso anche questo qui, un disco... sembra un musical rock questo pezzo, ma lo sembra un pezzo essere. Di un'opera rock, potrebbe proprio. Diventare sì. Guarda, questo è un bravo Pianeta Donna, può diventare un musical, esattamente, questo è bravo. Ogni canzone ha una vita sua e nel contempo racchiude tutti gli aspetti, secondo me, almeno quelli che vedo io, della donna. Donna, tu sei a Roma, giusto? Io sì. E mi torni? E come no? Tu mi torni, la domenica, tranquillo, mi fai una passeggiata fra un po'. Io ti torno. Va bene, grande Don Baghi, Aldo, grazie, grazie davvero. Eh sì, dobbiamo parlare tante grazie. Cose con te, abbiamo lasciato una diatriba sì, nell'aria, sì. Ma noi non vogliamo polemiche, come non le vuoi tu nei tuoi blog. Assolutamente no. Benissimo, signori, voi Senato mi finisce qui, grazie per volerci così bene, qui tanti grande Don Baghi, c'è un'immensità di complimenti, ci arriva di tutto. Bene. Grazie Don, grazie a Pietruccio, grazie ai ragazzi che sono venuti ospiti, gli attori di Ovunque tu sarai. Il disco, posso dirlo, sì. Distribuito dalla Egea, si intitola Pianeta Donna. Pianeta Donna, e ve lo dico io, Pianeta Donna, Don Baghi. Ciao a tutti, a domenica prossima.